Ah, mia Dio, bella. Voglio tutte le fighe in Italia. Dio. Prestate attenzione. Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi, Silvio, Sweet Berlusconi, io sono Sweet Berlusconi, Silvio Berlusconi, io sembro Sweet Berlusconi. Benissimo, via. Ah, sì, pronti? Ma non ci presentiamo mai, è una cosa che non facciamo da un anno. Tu chi sei? Frega. Tanto perché si aggiungono nuovi ascoltatori che non sanno chi siamo. Sì, tu chi sei? Sono Alex Diro, no aspetta. Io sono intrinseco, no, mi firmo così. Io sono Rupert Pupkin. Yeah. Se fosse qua mia madre gli direi, mamma ma che fai, sei morta da 9 anni. Lo scrivono tutti male. Signor Pipkin? Pipkins, Popkins. Benissimo. Sì, dai, dai, ritmo! Per chi fosse curioso, la sigla di oggi è stata scelta, ho pensato fosse a tema, era, non so, qual è il titolo originale? Swag Berlusconi? Sì. Però c'è anche un sottotitolo, Non ci pensare, se non sbaglio. Comunque è di Bello Figo Gu. Il fu Gucci Boy. Grandissimo. Un pezzo potentissimo. Sì, sì, un grande artista. Poi, insomma, un pezzo che parla di soldi, donne e sballi, mi sembrava appropriato. Visto che oggi parliamo di un film berlusconiano, ecco, diciamo. Beh, anche tu non sai chi sono io, andava bene, però va bene, accetta. Sì, però insomma qui c'era più quel sottotesto politico. Vabbè, dai, passiamo subito, buttiamoci subito nel mondo delle notizie. Izie, prima con i morti, perché come sapete, noi non è che per morbosità, è che ogni volta, ogni settimana muore qualcuno e noi portiamo avanti questa cosa. Allora, sono morti in ordine di morte, non di importanza. Carlo Mazzacurati, regista italiano, ha diretto due film, no? Due film recenti ricordati, e, sì, come al solito si fa un po' di rivalutazione postuma, vabbè. E a noi, vuoi dire qualcosa su Mazzacurati? È finito il tempo. Allora, e poi è morto il compositore sempre famoso nel cinema italiano, Rizzo Ortolani, qui magari ecco, c'è già un po' più di rammarico. Ha scritto la mia sveglia per anni, che era quella di Cannibal Holocaust, che fa strano, però era bello svegliarsi con quello. Sì, una canzone stranamente soave, poi il sacco di musica, il sorpasso. Morto sì. Michele Soavi. No, no. Ah, okay. No, lui è ancora attivo e... Troppo. Insomma, attivo, non esageriamo. Sì, comunque, Cannibal Holocaust, il sorpasso... L'altro c'era di grosso grosso, beh, ha fatto un mare di roba. Giorni dell'ira. Giorni dell'ira, sì, molti film di genere italiani, soprattutto, ma non solo. E poi oggi ce n'è uno fresco di giornata, è morto di giornata, questa è una citazione. Pete Seeger, un altro musicista, un grandissimo musicista folk americano, un po' il padre del folk anni 60-70, quindi Dylan e di tutto quel mondo legato alla musica folk, insomma, 94 anni, un colosso della musica americana, peccato, peccato, però 94 anni con quel bel curriculum, dai, tutti legati, la firma. Tutti legati in qualche modo alla musica, non è che muore Zucchero, quindi, a breve. E hai delle news, però. Sì, sì, la prima ce l'hanno segnalata, non mi ricordo chi... Probabilmente uno di quelli che ci ha anche fatto le domande, quindi chiedo scusa. Diceva che Valerio Longobardo. Sì, mi pare sia lui. Non dire il cognome, madonna, adesso quello ci denuncia. comunque riportava la notizia che non è freschissima, ma... È Longobardo. Sì, è vero. È un leghista, quindi. Una notizia di qualche giorno fa, però noi ce l'avevamo persa e soprattutto avevamo anticipato il discorso per qualche domanda che ci avevano fatto, cioè... riguardo alla Torre Nera, che a quanto pare non se ne parla, ma sotto sotto lavora, si muove, avanza, e hanno scelto l'attore che interpreterà Eddie, il drogato, e non a caso è Aaron Paul di Breaking Bad, del prossimo Need for Speed, no? Che cacchio è? Fast and Furious, no, Fast sì, and Need Pure. For Speed, no, no, no, sì, vedi che ci ho preso. E niente, quindi vuol dire che il film si sta muovendo, contrariamente alle impressioni che ci eravamo fatti, e a me sembra una scelta azzeccata. Quando ho letto il libro non conoscevo Aaron Paul, ma col senno di poi ho un viso che ci sta. Sarà poi che mi influenza la serie TV da cui è uscito, però vabbè, ce lo vedo bene. Manca il resto del cast e il film. Comunque lui ha confermato che saranno 2 o 3 film, non mi ricordo, e un paio di serie TV, quindi ma è confermato. Eddie è il personaggio, no? Sì, è uno dei 3 protagonisti. Lo dice mai Beach? Non lo so, no, non mi pare. In italiano... Sì, dovrà, perché ormai... E poi niente, una è vecchia, era più che altro per ribadirla e per fare un'osservazione, quella dello script dell'ultimo film di Tarantino. Ecco. Come sapete, è venuto fuori, lui si è incazzato e ha detto, non lo faccio più. E la gente ha detto, pezzo di merda! E niente, poi ci sono stati dei lanci di bottiglie, niente, mi interessava ribadire questa cosa. A me piace questo gesto, cioè mi dispiace non vedere il suo film, ma mi piace che un artista, un autore, anzi, a un certo punto possa permettersi una cosa del genere. Cioè una sceneggiatura pronta, attesissima, anche perché poi la sceneggiatura è metà del valore dei film di Tarantino, lui dice no, basta, la butto via, faccio un altro film. comunque è venuto fuori, tra le altre cose, che sarebbe stato girato in 70 mm, se lo avesse fatto, quindi come The Master, insomma. Un western in 70 mm sarebbe stato perfetto, e invece non lo vedremo mai. Comunque la sceneggiatura potete già trovarla online, perché è trapelata di nuovo, quindi ve la potete leggere. Ecco, a tal proposito, ha fatto causa a Gawker, questa rivista online americana, e questi si sono difesi dicendo, vabbè, ma mica l'abbiamo messa noi online. Vabbè, giusto, in effetti, voi avete solo però linkato il file su anonfiles.com, ovvio che non l'avete messa voi, però, insomma, l'articolo poi si chiamava Ecco la nuova sceneggiatura di Scorsese, di Tarantino, e in più si sono difesi tirando fuori una vecchia intervista di Tarantino, in cui diceva, apprezzo davvero il fatto che in un dato momento chiunque possa pubblicarla, riferito alle sue sceneggiature, leggerla e recensirla online. Detto francamente, mi dispiacerebbe che avvenisse il contrario. Mi piace che la gente apprezzi il mio lavoro e che si spendano, per trovare e leggere le mie cose. Insomma, gliela stanno rinfacciando questa cosa. Bah, chissà cosa c'è dietro. Magari, come hanno detto molti, è un trucco. Qualcuno diceva, mi sembra molto stupido, ma può essere, che questa news sia una balla, è un modo per invece anticipare che il prossimo film sarà davvero un giallo, ma che trovata complicata, vabbè. Ma immaginiamoci comunque Bruce Dern in questo momento, che era contentissimo di fare il film e subito gli arriva la notizia, no, l'ha cancellato. Io mi ero messo i pantaloni. Sì, comunque magari si rifarà con l'Oscar forse. E passiamo all'altra, riporto semplicemente una cosa che ho letto oggi. Pare che Guy Ritchie sia al lavoro su un nuovo film, ed è un film su Re Artù. Quindi continua sulla sua cresta di film brutti, e vabbè, noi lo lasciamo fare. Poi un'altra cosa che interessa a noi due, ma anche per chi ci ascolta, è Locarno quest'anno, cioè quello, sì, l'anno in corso, alla 67esima edizione, farà, tra le tante cose, una retrospettiva sui film della Titanus, quindi film italiani dell'epoca d'oro, diciamo, del cinema italiano, molte commedie, molte cosine belle che non facciamo più, e quindi sarà uno dei temi di Locarno 67. Quindi non è male, le retrospettive sono sempre gagliarde, Chatrian sta prendendo una strada sua, non diversa. Vabbè, noi ci andremo probabilmente, come al solito. Linkala poi. Sì, vabbè, sì. Comunque, è confermato. E poi l'ultima cosa, questa mi piaceva e l'ho voluta riportare, pare che i gestori americani di cinema e di multisala, quelli della National Association of Theatre Owners, la NATO, pensate, la NATO, hanno protestato, hanno manifestato, insomma, fastidio riguardo ai trailer, che sembra, secondo loro, e noi condividiamo, che siano sempre più lunghi, sempre più rivelatori, sempre pieni di scene che uno vorrebbe magari vedere nel film e non anticiparsi. E in molti hanno aderito a questa petizione, diciamo, e chissà che non ne venga fuori qualche risultato positivo. Non abbiamo sempre detto, i trailer di oggi sono interminabili, 2, 3, 4 minuti, che non sarebbe neanche troppo se non mostrassero poi materiale importante. Davvero, sono sempre più spesso dei veri e propri spoiler, quindi mo basta. Torniamo a quando i trailer erano lunghi come i teaser di oggi, che era un'ottima cosa. E facciamo come quello di Brian De Palma, cos'era, Femme Fatale, che era tutto il film, sì, ma velocissimo, così. A me era interessante come idea, De Palma è sempre creativo. Va bene, allora se non hai altre news tu passiamo direttamente alla posta. Ho solo 3 cose velocissime che riguardano il futuro prossimo, ma per quanto riguarda i premi, perché 1. È finito il Sundance Festival e ha vinto Whiplash, che sarebbe la storia di questo aspirante batterista jazz. La leggo perché è bellissima, come l'hanno scritta su Cineblog. Racconta di un aspirante batterista jazz che aspira aspira alla grandezza e che entra in conflitto col suo severo mentore, che sarà J.K. Simmons. C'è tutta la lista dei vincitori, ma sono talmente sconosciuti ancora che è difficile anche dirveli, non cambia granché. Comunque ha vinto questo, ha vinto anche alla grande, perché ha vinto anche la giuria. Poi i premi dei Directors Guild Awards, che come dice il titolo premiano solo i registi, e ha di nuovo vinto Cuaron, e fin qui dice va bene, allora ok. L'altra notizia è che nei documentari ha vinto Jean Nouzhaïm per The Square, che mi sembra sia candidato tra i documentari, quindi ecco il rivale numero uno per Oppenheimer e il suo Act of Killing. E poi gli altri vincitori non sono molto interessanti, ma sì, vabbè, ha vinto per la TV Breaking Bad, regia, per la commedia Third Rock, e per miniserie Steven Soderbergh, ancora una volta, con Behind the Candelabria. Ultimissima, sono stati gli Oscar, diciamo, norvegesi, ha stravinto Il Sospetto. Ha vinto, mi sembra, 7 premi. Ha vinto sia miglior film, miglior attore, miglior regia, eccetera. E quindi, insomma, come in Italia, in Europa addirittura, La Grande Bellezza stravince, in casa sua stravince il film di Vinterberg. E tu dici, è facile in Norvegia, perché in Italia è più difficile, è facile in Norvegia, che cacchio c'è? E come che cacchio c'è? C'era quello di Refn, comunque candidato. Only God Forgives, che comunque ha portato a casa 3 premi. Miglior colonna sonora, miglior suono e miglior fotografia, come i nostri awards. E vabbè, quindi ha battuto un mostro, uno che a noi è piaciuto tantissimo. Speriamo che vinca anche agli Oscar, ma difficilissimo. Finito qua. Ah. Oh. Sì. Va bene, sì. Ecco, volevo risparmiarmela per dopo. Non so neanche se si sente bene. Va bene, facciamo allora la posta del cuore. Sì, questa era la sigla. La prima è di Luca Filippazzi, che ci chiede in soldoni o in sordoni o in quello che vi pare. La riassumo perché era abbastanza lunga. E ci chiede se secondo noi l'attenzione soprattutto mediatica ai film come appunto The Wolf of Wall Street sono dovuti al film in sé, al regista, o al sodalizio che Scorsese ha creato con DiCaprio, e poi in aggiunta a questo dice, quindi se è così questo è il motivo per cui invece altri registi come Coppola, De Palma o Friedkin sono invece spariti dalle sale secondo lui. Vai tu, vado io prima. Vado veloce. È già vicino ai 100 milioni Wolf of Wall Street, mi pare 96, una cosa del genere. Vabbè. Comunque, perché sta avendo questo successo? Sì, perché Scorsese, che comunque Scorsese è un gran nome, ci andiamo noi appassionati, ma ci vanno anche altri, perché comunque viene pubblicizzato bene, Ci stanno andando per questo, perché è una commedia, al contrario magari degli ultimi che erano un po' più, vabbè, insomma, come si chiama, l'ultimissimo, Hugo Cabret, era già per tutta la famiglia, però non ebbe grande successo. Però appunto questa è una commedia, si ride, quando lo vai a vedere lo consigli a tutti perché si muore dalle risate, ma ne parleremo dopo. Ma io penso che il punto sia ancora lui, DiCaprio. Vanno tutte le ragazzine e i fidanzati delle ragazzine e le, anche le giovanotte, perché insomma è sempre lui. Ho trovato dei dati velocemente. Aviator, che se non sbaglio è il loro primo lavoro assieme, fu il primissimo film di Scorsese a raggiungere i 100 milioni. Un caso probabile, magari c'entra anche l'inflazione, varie robe. Però un film di 3 ore, biografico, che non è questo biografico come Wolf of Wall Street, fa 100 milioni, era un po' imprevedibile. E il più grande incasso di Scorsese è Shutter Island, più di 250 milioni, guarda caso, c'è ancora DiCaprio. Mi sembra ovvio perché fa tutti questi incassi. Poi, per fortuna, sono anche bei film e quindi il passaparola aiuta. Cos'era la seconda? Quella perché gli altri quindi non... Beh, faceva parte della prima, cioè se è questo che aiuta allora si spiega perché attori e registi come Coppola, De Palma e Friedkin invece non hanno avuto questa visibilità. Ah, perché non hanno un DiCaprio loro? Sì. Sì, ma... però... Sì, immagino comunque un attore... Sì, non hanno un... Sì. Sì, però ognuno ha un discorso a sé. Coppola è quello che ormai sta nella vigna, non gliene frega niente di nulla, fa i suoi esperimentini. De Palma è un po' incomprensibile, ha preso delle batoste negli ultimi anni, adesso si vede che non glieli producono, anche se trovasse l'attorone, anzi è difficile trovare l'attorone se non sei uno che non producono. E Friedkin pure, uno che non ha preso bastonate, però è uno che ormai fa quello che gli pare, ha scritto pagine di cinema, che gli frega. Scorsese invece è, boh, è chi lo ferma questo, anche se poi ho delle news su di lui. Vai. Sì, comunque credo, ribadisco più o meno, che credo sì, comunque un attore come DiCaprio che ha un suo pubblico ed è in fase di ascesa, perché insomma in questi anni si parla solo di lui, anche solo per le battute sugli Oscar, insomma è innegabile che abbia degli ammiratori, un pubblico e una visibilità, e comunque sì, direi che un po' aiuta, non credo che faccia la differenza, però insomma è una bella spinta. Per quanto riguarda gli altri registi, credo sì, per rovescio valga lo stesso discorso, però appunto non è che gli è mancato l'attore, che o sono stati assenti molto, oppure hanno fatto un cinema più indipendente. Guarda Friedkin che ha fatto Pug e anche comunque sì, un film con un attore tra virgolette in ascesa come McConaughey, oddio come si chiama, Killer Joe, anche lì c'è stato ha avuto un suo riconoscimento anche commerciale, chiaramente con le dovute proporzioni, perché McConaughey era all'inizio della rivalutazione, diciamo così, e poi è un film distribuito diversamente, passato più ai festival che al cinema, però ecco, mi sembra un paragone adeguato, visto che c'è un attore di mezzo. De Palma fa poco, e quando lo fa molto di nascosto, come l'ultimo, e Coppola, anche se fosse, sta facendo quello che gli pare, insomma, dopo un film come Twixt, insomma, è un po' difficile anche raggiungere il grande pubblico, non mi sembra che neanche gli interessi, quindi... Sì, DiCaprio o no, è un fatto di autori più che di attori. E l'altra domanda era di Valerio, vabbè abbiamo già detto quel nome, Valerio L, che ci chiede anche lui cosa ne pensiamo su DiCaprio, insomma un discorso generale sui film che ha fatto, cosa ne pensiamo. Vado io prima? Vai. Che gli rifilano o che si sceglie sempre ruoli un po' troppo simili. Tra l'altro quello che pensavo durante quest'ultimo Wolf of Wall Street, non sopporto più il suo doppiatore e penso che sia una cosa, cioè è bravissimo, poi lo conosco anche fuori dal doppiaggio perché è ospite spesso del Trio Medusa, vabbè, su Radio DJ, ed è molto simpatico, però non lo sopporto più non so perché, e credo che perda molto a vederlo, come tutti chiaramente, ma perda molto a vederlo con quella voce. Cioè gli sta molto bene, ma gli dà sempre la stessa impostazione. È vero che DiCaprio a volte ricade nelle sue solite smorfie, nei suoi soliti personaggi che devono per forza fare quei passaggi all'interno di un film. Cioè, sono sempre incazzati, sono sempre a urlare. Però lui gli dà sempre anche quell'impostazione, gli sta un po' togliendo, non lo so, bravura, non lo so. Sì, è un bravissimo attore, per carità, al di là di Oscar, eccetera. Non sto qui a fare la lista di quelli che mi sono piaciuti di più. Nell'ultimissimo, comunque, con tutti quelli di Scorsese, è bravo. A me è piaciuto tantissimo anche in Gangs of New York, che lo citano meno, perché magari ha meno spazio, però piaciuti tutti. Sì, io non è che non lo considero un buon attore, però credo che sia più giusto parlare di buon caratterista, perché lui può permettersi, secondo me, un range limitato di ruoli, di differenti ruoli, ecco. E in effetti l'impressione poi la confermano con i film che fa, perché sarà che ha una sua credibilità ormai a Hollywood, nonostante gli Oscar mancati, però insomma sembra che si possa scegliere lui il film che vuole, e gira e rigira sembra che si scelga sempre gli stessi, forse perché appunto è più semplice, piace, per carità, non volevo solo ridimensionare secondo me l'ampiezza delle sue competenze, ecco. È un po', si può permettere due o tre personaggi diversi che poi ruotano un po' intorno alle stesse ossessioni, le stesse movenze, gli stessi gesti, e alla fine insomma gli ultimi ruoli più apprezzati secondo me lo confermano, quello di Django e questo, non dico che siano identici, però sono recitate interpretazioni molto urlate, molto agitate, molto maniacali e brasteniche. Sì, insomma sembra che si stia adagiando su un certo tipo di personaggio, perché gli conviene, insomma, prima di tutto un attore di Hollywood, nessuno gliene fa una colpa. Questa cosa degli Oscar, chi se ne frega, insomma, come abbiamo già detto, non è lì che si decreta il meglio, il peggio, è un fatto commerciale l'Oscar, evidentemente non gli interessa promuovere DiCaprio, che comunque i soldi li porta comunque, troppi comunque, basta. I film, sì, anch'io insomma mi risparmio, anche perché è uno di quelli onnipresenti, insomma almeno due o tre film all'anno li fa. Quest'anno purtroppo c'è anche il grande Gatsby, ecco, vabbè. Uno dei ruoli meno belli, perché il film non è bello e perché lui comunque sì, fa la sua particina, ma non... ecco, lì dimostra magari che un ruolo diverso non gli permette di sfondare, ecco, uno che ha bisogno di irrompere sullo schermo per farsi notare, di urlare, di prendere martelli e tagliarsi le mani, ecco, gli devi dare il giusto ruolo e gli devi permettere insomma di esprimersi appieno. Ecco, a tal proposito, ricordiamo che questo, cioè, sta per iniziare l'anno sabbatico, perché lui aveva fatto questi due film, Wolf of Wall Street e Gatsby, e poi aveva detto che sarebbe stato fermo un anno, quindi non ce ne siamo accorti, beh no, sì, appunto è già iniziato il suo anno sabbatico. Appunto, è che questi film sono usciti molto dopo. Non ce ne siamo accorti, ma lui starà lontano dal cinema per un anno. Forse, non so se è il caso di prendersi una pausa, però magari gli farà bene. E ricordiamo anche che questo Jordan Belfort se l'è scelto lui, perché lui ha comprato i diritti, lui si è cercato il regista, voleva Stone, ma alla fine è arrivato Scorsese, mica male. E quindi questo è proprio il caso in cui è lui che se l'è scelto al 100%, non è che gliel'hanno appioppato perché gli danno sempre quei ruoli. Ecco. Io ho domande da Twitter, sono finite quelle di Facebook. Sì, sì. Una velocissima a cui rispondi solo te, perché non l'ho visto io. Alessandro, con due punti esclamativi davanti e dietro, chiede, visto che siamo giornata della memoria, ieri, che cosa ne pensate di Schindler's List? A me manca, c'ho il DVD, ma è... Non hai visto Schindler's List, ma no. Mi dispiace. Io l'ho visto però talmente tanto tempo fa che potrò contribuire poco. Sì, sì, la TV era in bianco e nero, infatti non mi sono accorta che la bambina era in rosso. Non so, come ho detto, l'ho visto una vita fa, tra l'altro credo la prima volta a scuola e la seconda in TV. e quindi ne ho un ricordo un po' così. E il, non lo so, non... mi era tornato in mente perché, cos'era, Gilliam se ne aveva parlato forse tra i film un po' condiscendenti, spielbergiani. Sì, forse è quello che ricordo meno felicemente. Ecco, il fatto che non mi sia rimasto molto impresso e che non ho voluto rivederlo forse la dice lunga. Ma i film sull'Olocausto poi mettono sempre un po' di difficoltà, perché ce ne sono tantissimi, non tutti necessari, ma c'è sempre quel freno, sai, dire no, non ne parlo male perché no? Chi che diceva una cosa del genere riguardo a certi film, vabbè. Ero io, credo, sul razzismo. Può darsi, sì. E quindi cioè, mi sembra che in generale ci sia questo atteggiamento. Io dico semplicemente che non me lo ricordo e probabilmente non è una bella cosa. Non so, era l'epoca in cui Liam Neeson faceva bei film, quindi forse questo è un bel film. Dovrei riguardarlo. Va bene, sei un mostro. E c'è la seconda, se possiamo far veloce, perché è mia. No. Luca F. chiede... Visto che ultimamente stanno uscendo tutti i film una settimana prima della loro uscita al cinema su internet, non dico l'ultimo perché non è giusto, e tu che sei uno di quelli che si è incazzato di più, dici la tua su questo rapporto streaming-cinema degli appassionati. Un appassionato può starsene a casa a vederli o insomma l'appassionato deve andare al cinema? Non deve, però insomma... Ma appassionato fa come gli pare, però dal mio punto di vista se c'è una passione vuol dire che c'è un interesse, cioè anche l'interesse a fare uno sforzo, alzare il culo dalla sedia, magari guidare, fare, non dico 50 chilometri come faccio io, come facciamo noi, però insomma, almeno uscire di casa e pagarlo questo film. Anche perché poi non mi piace l'atteggiamento che vedo in generale, c'è sempre la giustificazione, la lingua originale, ecco. Ma la lingua originale va bene, ma li vedete sempre tutti in lingua originale? Secondo me andrebbe visto caso per caso. Io ho l'impressione che molti dicano sì, è questa la ragione, però poi quando lo trovano in italiano preferiscono quello in italiano, anche perché, diciamo la verità, su Cineblog i film sono in lingua originale per i primi minuti, poi quando trovano il file audio ce lo piazzano su, quindi anche questo è da rivedere. Non so, io credo semplicemente che almeno per un film di Scorsese sia, non dico doveroso, ma giusto, bello contribuire, anche perché uno lo vuole vedere in lingua originale, te lo rivedi dopo, ma almeno dargli quei 5 euro, quei 7 euro, perché se poi non li dai a nessun film, ora va bene, il cinema commerciale, i soldi non gli mancano, non ha bisogno dei miei 7 euro, è un discorso stupido, perché se lo fanno tutti, non lo produci più il cinema, neanche quello commerciale. Non so, ecco. Non vanno neanche a vedere gli altri. No, io parlo di quelli che poi si considerano appassionati e che di solito ci vanno al cinema, non sempre. Cioè, però dico, ecco, è Scorsese, è un bel film, anche per godertelo con una qualità degna. Poi è vero che non tutti i cinema ti proiettano il film come si deve, per carità, però non so, per me ha ancora valore andare in sala. E dico io stesso che se qui ci fosse un film che li proietta in lingua originale, penso che preferirei quella possibilità, però ecco, andrei al cinema, lo pagherei, anche perché, non so, vederlo a sbafo mi toglie un po' del piacere, anche solo il gesto di andare lì a sedermi, anche al festival, dove magari non pago perché ho l'accredito, però, non so, quel movimento, quel miglio in più che fa uno che magari ci tiene davvero, ecco, e basta. Ma va bene, va bene, va bene. Le domande allora... dall'interno, cioè... Non ce le mandano, che devo fare? Vabbè dai, non dovevi dirlo, cari tu. Ah, Luca F, non sappiamo chi sia, lo conosco, vabbè. Speciale Scorsese adesso? Sì, speciale, qualsiasi cosa sia, sì. Ma sì, allora io ho preparato delle news, proprio solo per lui, ma non sono news, sono il futuro di Scorsese, ecco. Allora. Ricordiamo Scorsese con due S, non Scorsese, non so, molti sbagliano. Sì. Ma quando, cioè lui stesso dice di chiamarlo Scorsese, che è americano, però... Vabbè, la pronuncia loro, sì. Non sei americano, Martin, cioè il cognome non lo è, per favore. Comunque, intervista del 9 gennaio, quindi neanche un mese fa, ha detto, ho ancora in serbatoio due film. Non sono più giovane, non sono più in grado di passare da un film all'altro, ma che cazzo stai dicendo? Che lo stai facendo in continuazione? Comunque, ha detto basta, non basta, però ne ho ancora due. Chissà cosa intende, se cioè, i progetti ce ne sono già. Intende due oltre questi progetti o questi progetti ne farà solo due? Comunque, questa è la sua... ha detto questa cosa. Quali sono questi progetti? Allora, innanzitutto un documentario su Bill Clinton che sta già per uscire, cioè insomma è quasi finito, non ha ancora titolo, ma magari questo non lo metterà tra i suoi film. Silence, quella di cui avevamo già parlato in una vecchia puntata, sui preti gesuiti del XVII secolo in Giappone, eccetera, eccetera, lo farà veramente, perché ormai c'è Andrew Garfield e un altro attore che è stato scelto, lui ne sta parlando già come una cosa che si farà a breve, quindi questo è di sicuro un progetto. L'altro, a quanto pare, è finalmente Frank Sinatra. È dal 2009 che se ne parla, è uno dei suoi più grandi sogni, poi ne parlo più avanti. Lo vuole fare a tutti i costi, solo che o non trova fondi o non gli piace la sceneggiatura. Comunque ultimamente è finito alla HBO, che sarebbe interessata a farlo come tipo Behind the Candelabra, insomma. Però sempre con la HBO avrebbe un altro progetto particolare, che è un biopic su Celestino V, cioè da Frank Sinatra a Celestino V. E a quanto pare Silence e Frank Sinatra, se mai si farà, al cinema, però in questo caso, saranno entrambi in 3D. Anche questo, Wolf of Wall Street sarebbe dovuto essere in 3D, ma poi ha cambiato idea. A quanto pare va pazzo per il 3D. Silence, un film sui gesuiti in 3D, sembra strano, ma lui lo vuole fare. Progetto poi che, sì, questo si vocifera da tanto, The Irishman, sarebbe il ritorno con De Niro, è ancora lì. Però vedete, i progetti sono già 5, e lui ha detto che ne fa 2. De Niro e Pacino, si diceva, no? Ma quello forse si chiamava Gli Assassini, era addirittura un'altra cosa. Ma pare che la cosa del doppio dei due attori sia rimasta poi su The Irishman. Però ok. Leggevo ieri questa cosa, infatti molti hanno detto, ma non hanno detto che non recitavano più insieme. Insomma, questo è il suo futuro. Vedremo, sembra interessante. Nel 2014 usciranno 3 film da lui prodotti. Uno spagnoleggiante, credo che sia sudamericano, di cui non si sa ancora granché. Uno americano, anche qui non si sa granché, e uno di cui si sa qualcosa, è un cinese, The Revenge of the Green Dragons, ambientato a New York, con Ray Liotta, che però non è protagonista, ed è una storia di immigrati cinesi a New York di inizio secolo. Sembra interessante questo. Vedremo. Come degli immigrant, vabbè. Sì. Questo speciale come cacchio lo strutturiamo? Non so, riguardiamo la filmografia rapidamente. Sì, quella te la lascio a te. ne discutiamo assieme, però ho preparato anche 10 curiosità su Scorsese, vediamo se le conoscevi. Si chiama Martin Scorsese, ma il suo nome completo è Marcantonio Luciano Charlie. Pensa se avesse scelto Marcantonio come nome, sarebbe stato tutta un'altra carriera. Marcantonio Scorsese vince il suo quinto Oscar. Marcantonio lo avrebbero premiato. Sì, Marcantonio, come fai a non premiarlo? Questa la saprai di sicuro, chiaramente. Ha lavorato con Arbore nel Papocchio sì. E in un documentario di Cipriano Maresco, ricordiamo, insieme a Fuller e ad altri. Lui raccontava un po' com'era vivere a New York da immigrato italo-americano. Anche se lui è nato a New York, insomma, i suoi genitori immigrati. Questa anche è abbastanza nota, voleva fare il prete, andò in seminario addirittura nel 56, poi cambiò idea per fortuna. È una delle 50 persone bandite dal Tibet. Questo è divertente. E perché? Dopo Kundun gli ha detto, no, tu non entri più. E perché? ma perché forse era nel Tibet, non lo so. La Cina è pro-Tibet. La Cina ha detto basta. È la Cina, ecco, è una cosa cinese, non sì, giustamente. Sarebbe stato strano, ha detto, i tibetani non hanno gradito, allora, la signor Scorsese, fa schifo questo condotto. Abbiamo neanche visto tutto intero, basta. Allora, uno dei suoi eroi, uno dei suoi registi preferiti è Michael Powell, Tra l'altro De Niro, che ho visto ieri in New York, New York, da un nome falso all'albergo ed è Michael Powell, gli ha fatto conoscere Thelma Schumacher, che è diventata sua sposa, e quando era piccolo lui andava sempre, questa è un po' da vedere, perché da quando era piccolo, insomma, andava in una videoteca della sua zona per i film di Powell, e ogni volta che non trovava il film, l'addetto lì al negozio gli diceva, c'è là quel ragazzo, quello là, Romero, ed era Giorgio Romero, se li litigavano loro due. Come li capisco, Powell? Eh sì, è bello Romero, poi che non ha fatto niente alla Powell. Ma infatti, tutt'altro che classico. Eh beh, però insomma, è imprescindibile. Quanto è bello, Powell. Eh sì. Vabbè. Ha insegnato alla New York University, allievi come Oliver Stone, guarda caso, e Spike Lee, ed era lui che doveva dirigere Clockers, ma alla fine ha fatto solo il produttore e l'ha lasciato a Spike Lee, quindi un suo allievo. Poi i suoi sogni negli anni 80 erano un film su Gesù Cristo, fatto, un film su Rocky Marciano, fatto, e uno su Dean Martin, però le sue richieste erano specifiche, voleva Tom Hanks come Dean Martin, Jim Carrey come Jerry Lewis e John Travolta come Sinatra. Purtroppo sono invecchiati, lui ha lasciato perdere, adesso punta più su Frank Sinatra che uno su Dean Martin, però anche, cioè, insomma, no, non so cosa volevo dire, comunque questo progetto mi sa che non lo realizzerà, quello su Dean Martin, Frank Sinatra probabile. E un altro suo progetto era fare un biopic su Richard Pryor. Ma perché? Questa cosa l'avevo letta, e tra l'altro recentemente è uscito fuori che lo faranno un biopic su Richard Pryor. Non credo c'entri niente lui, perché ci sarebbe scritto, però mi ricordo una news, e lì ho detto, ma chi interessa ancora? E sarà in particolare su Richard Pryor quando ha fatto quel ruolo in Superman 5. Sì. Madonna santa, sembra una cosa trash. Vabbè. Poi, doveva dirigere Schindler's List, ecco che... Vedi? Perché il produttore era Spielberg... E lui non lo voleva fare, o comunque, insomma, chi lo se lo piglia? L'aveva chiesto a Billy Wilder, che gli aveva detto, insomma, no, sono ebreo, non... è difficile. E poi era vecchio. E Polanski ha detto, no, io devo ancora farci i conti con quel parte della mia vita, quindi no. E alla fine Spielberg è rimasto col cerino in mano e ha detto, vabbè, lo faccio io, va. E gli è andata bene, l'ha fatto bene. Insomma... agli Oscar l'hanno apprezzato. I suoi top film, i suoi preferiti: Quarto Potere, e fin qui dice, vabbè, facile. Gattopardo, vabbè, facile. E poi Scarpette Rosse, Powell, ma anche qui facile. E il primo film che ho visto al cinema da picco è Duello al Sole. Voi ve lo ricordate il primo? Io no. Forse Bambi, non lo so. Anni fa, come quando gli chiesero chi è il tuo erede, indicò Wes Anderson, dopo che aveva fatto Rushmore. Per lui era un nuovo Scorsese. Vabbè, un po' cambiato poi. Non ha, sì. Cioè, è cambiato, non ha fatto niente scorsesiano. Non so se ha cambiato idea anche Scorsese su di lui. E sempre in quell'intervista gli chiesero qual è il tuo film preferito tra i tuoi. La sorpresa ha detto che il suo migliore, quello che gli piace di più, è Italian American, che è un corto del 74 che fece con attori i suoi genitori, che dove duri sui 6 minuti, e insomma gli piace tantissimo. E ultimissima all'Oscar gli hanno chiesto, non sei, insomma, incazzato che te l'hanno dato solo adesso dopo quei capolavori che hai fatto? No, anzi, meno male, perché sennò avrebbe influenzato la mia carriera. Ecco, Leo, senti queste parole. Che te frega di vincere, sbattiti, fai qualcosa di diverso. Scorsese l'ha fatto e alla fine gli è andato, vabbè, contentino, ma lui ha fatto una carriera dicendo, devo fare di meglio, devo fare meglio, devo fare meglio, ho finito. Oh. Va bene. Lo speciale, allora, ti faccio una domanda che è sciocca probabilmente, ma DiCaprio o De Niro? Non so, aspetta, quale De Niro? Beh, quale De Niro nel suo insieme, non lo so. Il De Niro Scorsese, il DiCaprio Scorsese. Ah, ecco, ok, allora già diverso. Non so, devo scegliere per forza. No, fai un discorso. Non so, ecco, i film di Scorsese che mi piacciono di più sono quelli con De Niro, ma è inevitabile, credo. Però, ecco, quelli con DiCaprio, cioè, che poi qua ha fatto con DiCaprio? Questo, Shutter Island, The Aviator, Shutter Island, e Gangs of New York e The Departed. E The Departed, non lo so, guardando i film, forse semplicemente per, appunto, per motivi qualitativi direi De Niro, però non è che c'è questo divario, perché De Niro all'epoca era forse un pelino superiore, ecco, ma non saprei proprio scegliere. Sono fasi diverse, le rappresentano bene i due attori. Ah, pensavo un plebiscito per De Niro. Beh sì, è su un altro livello, era su un altro livello, credo. Ha perso punti, ma all'epoca sì. Vabbè, ma non pensare al De Niro di adesso, viene è difficile. Vuoi fare la filmografia? Vai. Non so, facciamo Wayne Letterman che legge l'elenco dei... No, non c'è il regista davanti, che non ha senso. Ma facciamo solo la top 3 come volevi, non lo so. Sì, va bene, sì. Poi magari al limite apriamo qualche parentesi. Ecco. Allora, facciamo... Vai tu, vado io? Che... Vai. Non lo so, top 3. Intanto consiglio, visto che l'ho visto ieri, apro le parentesi, va? Ho visto ieri Chi sta bussando alla mia porta, che è il primissimo Scorsese, in bianco e nero, con Harvey Keitel, che forse era la prima interpretazione, ehi, che è molto bello, come ha detto qualcuno, c'è già tutto Scorsese, sì e no, cioè comunque sì, le basi sono evidenti, però è molto diverso. Ed è particolare, ha delle sequenze quasi sperimentali, dopo si è un po' classicizzato, però è interessante come primo film, anche da recuperare magari dopo, a posteriori, quando si è visto tutto il cinema di Scorsese. Molto bello, è un film sull'italo-americanità, però non quella che dipingerà dopo, ma quella più borghese, ecco, c'è questo personaggio molto cattolico, Harvey Keitel, che vuole avere una relazione ma a certe condizioni, è molto cinico, molto bello, ha delle belle scene, c'è un bel montaggio nel finale con delle immagini sacre, lo consiglio. Poi un altro poco conosciuto, poco visto, il secondo, America 1929, oddio, come si chiama, quello che è morto di recente, David Carradine, sì, che è un primo film sulla criminalità, e poi alla base di quello che verrà dopo, molto bello, ecco, per non dire proprio i più famosi, così non sono troppo banale. E poi ne avevamo già parlato e ci avevamo fatto la domanda sui nostri preferiti, quindi avevo già detto questi, forse no, ma Alice non abita più qui sicuramente, lo metto tra i minori ma è tra i più belli. Io poi ho un debole per L'ultimo valzer, che è il film sulla band, cioè The Band, la band di Robbie Robertson, che poi è l'autore o curatore delle colonne sonore di quasi tutti gli ultimi film, compreso The Wolf of Wall Street, che è bellissimo. Ne approfitto poi per dire che, insomma, Scorsese si ricorda per i grandi film, ma è un documentarista soprattutto di musica molto appassionato, e alcuni dei suoi più belli sono documentari, anche se me ne mancano, perché diciamo che la fiction l'ho vista tutta di Scorsese, i documentari no, quindi è una bella occasione per... Quindi diciamo proprio una top 3, metto più in basso, ma ce lo metto Il colore dei soldi, ne avevo già parlato forse, che è una cosa mia, è uno dei suoi film che mi piacciono di più, uno perché è un sequel di dello Spaccone, e quindi di un bellissimo film con uno dei miei attori preferiti, e poi perché lo amo, è uno di quei film molto classici, molto debitore dei film come Lo Spaccone, però a colori, quindi con tutto il fascino del tavolo verde, non quello da gioco ma del biliardo, insomma, è bello, è uno di quei film di poveracci, di figure un po' così sconfitte che però titaneggiano sullo schermo, non so, un debole, è uno degli Scorsese che mi piacciono di più, quindi lo piazzo nella top 3 più in basso probabilmente. E gli altri due è difficile, un Toro scatenato, credo sia rimanga uno dei miei preferiti, diciamo che lui è il primo dei tre, non so, sarà il bianco e nero, sarà uno dei De Niro più belli di sempre, un film che boh, mi commuove già dai titoli di testa, sono una poesia. Cavalleria rusticana, ricordo. Cavalleria rusticana, ma sì, è una scena stupenda, è magistrale, credo che col senno di poi, rivedendo tutto in questi giorni, rimanga quello più bello. Il secondo posto se lo contendono Quei bravi ragazzi e Casino, non saprei scegliere. Poi anche banale, perché sono i suoi film più famosi. Cioè, oddio, scusa, cioè, dimenticavo Taxi Driver anche. Quindi non so, direi in alto Toro Scatenato e al secondo posto paraculamente ci metto tre dei suoi più grandi film, ma proprio perché non so scegliere. Non... Forse Taxi Driver svetta un po', perché è stato anche un film, tra virgolette, generazionale. È uno degli Scorsese con cui cresci come spettatore. Nel senso, non che lo vedi quando sei nell'età, ma che lo vedi e cambi un po', diventi un po' più maturo. Poi, non so, c'è Schrader dietro, c'è un sodalizio bellissimo, quindi... Sì, vabbè, facciamo così, Toro Scatenato, Taxi Driver e Il colore dei soldi per motivi affettivi, dai. Va bene, sei un beone da bisca, tu. Yeah. Io top 3 anch'io faccio fatica, però metto, non so, Gangs of New York, perché, ma non so, mi è piaciuto davvero tanto. Prima di tutto è sulla storia di New York, sulla storia dell'America, è su una particolare parte di New York, quei Five Points terribili. C'è un cast strepitoso, c'è una coreografia, sì, no, coreografia, che c'entra? Scemografia, che è pazzesca, di Dante Ferretti, che era appunto, era Cinecittà, è uno dei film che mi piacciono di più di suoi, forse viene meno citato, anzi a qualcuno proprio non piace, ma a me piace. Poi vabbè, Taxi Driver anch'io, perché Travis Bickle è il mio personaggio preferito al cinema, sarò come lui, non lo so, però mi fa impazzire. E poi la New York degli anni 70 di Taxi Driver è meravigliosa, si vede poco, si vede di notte e si vede il brutto di New York, come si vede poi il brutto anni dopo in Al di là della vita, che è una sorta di Taxi Driver ambientato nel mondo delle ambulanze. Però è New York anche quella, New York è bellissima anche così. Un giorno arriverà una tempesta e porterà via tutto questo schifo, dice Travis, però è bella anche quella, è un'altra faccia di New York. E poi Quei bravi ragazzi, è un capolavoro, rivisto recentemente e ogni volta che lo rivedi dici Madonna, è immenso, sono alcune finezze, alcuni, come si dice, piani sequenza che fanno impressione. Tutti dicono quello del Copacabana, quando Henry e la sua fidanzata entrano. Sì, ma ci sono altri, tipo quando fa vedere tutti i suoi amici all'interno. Non so se è il Copacabana anche lì, ma quando li inquadra ognuno è in soggettiva, tu passi in mezzo con tutti questi gangster e te li presenta. Ma anche quello è bellissimo, oppure... il piano sequenza dove parte da in alto e arriva giù davanti al camion dove ci sono dentro i manzi macellati nella cella frigo, e c'è dentro Carbone, uno dei gangster che viene ucciso, e lì tutto in un movimento entra dentro il camion, è una cosa pazzesca. Però sì, a me è piaciuto tantissimo anche The Aviator. In 3 ore è un biopic classico, però mi piace la figura di lui, di Howard Hughes, un mostro dei suoi tempi. Mi è piaciuto tantissimo anche Cape Fear, è un remake ma lo fa suo, lo fa scorsesiano e lo fa come avrebbero voluto farlo negli anni in cui uscì, perché lo fa molto più violento, lo fa molto più estremo, con questo amore tra Cady e la figlia minorenne, che ai tempi figurarsi a mettere una cosa del genere. E poi che dire, The Departed, non lo so, è bello e soprattutto è migliora Infernal Affair. È evidente che lo migliora, anche se anche questo, essendo un remake, l'idea è quella che è piaciuta a tutti, che tutti dicono che è filmone, questi infiltrati, di un infiltrato nell'infiltrato, eh sì, ma quella l'hanno inventata dall'altra parte, vabbè, comunque. E poi dico le delusioni, va? Non è che sono proprio delusioni, sono tutti belli i suoi film, però quelli che sono piaciuti un po' meno, e ci metto Casino. Non lo so perché, l'ho visto solo una volta, però me l'ha un po' annoiato, dovrei rivederlo, e volevo rivederlo prima di questa puntata, ma sono 3 ore, non l'ho proprio trovate. Ma è un po' propedeutico a The Wolf of Wall Street, comunque. ruota intorno al tema della ricchezza da un punto di vista diverso. Lo so, ho preferito rivedere per l'ennesima volta Quei bravi ragazzi. Vabbè. Beh, anche quello, insomma. È però un trittico che bisognerebbe fare. Vabbè. Comunque, infatti molti hanno detto, come ipotetica trilogia, questo si aggancerebbe a Casino e a Quei bravi ragazzi. Sì. Però appunto, non so, non mi aveva convinto. Ma appunto, l'ho visto così tanto tempo fa che ho quel DVD. Vabbè, lo rivedrò. Ricordiamo, così non ci dicono che come siamo tutti, come tutti quanti, che dimentichiamo un film ingiustamente trascurato, fuori orario. Lo stavo per dire, ma era tra le delusioni. Ah, madonna, vabbè, allora io lo metto tra i belli, non lo metto tra i migliori solo perché è dimenticato, mi è piaciuto. Sì, è una delle commedie, delle tre commedie, l'altra è Re per una notte, no? E l'altro ovviamente Wolf of Wall Street. Sì, commedie molto particolari. Vabbè, sì, non è mai fatte di commedie proprio. Però non lo so, non l'avevo trovato irritante. è un film che è irritante di suo, ma perché tutta quella nottata incredibile, ma io proprio non l'avevo retto. Anche questo dovrò rivederlo, ed è introvabile, fuori orario, cavolo. Era su Sky mesi fa. Grazie. Ma senti, vabbè, anche questo rivedrò. E invece King of Comedy, Re per una notte, non mi era piaciuto tantissimo, ma comunque piaciucchiato. Rivedendolo mi è piaciuto molto di più, l'ho rivalutatissimo. E questo, insomma, bisognerebbe rivederli i film. Però, se devo dire le delusioni, ma sono proprio delusioni che non mi sono piaciutissime, sono quei due lì. Non so se te ne hai. No, forse New York non è proprio tra i miei preferiti. Ecco, sì. Nel senso, lo metto tra i minori. Comunque c'è sempre quell'interesse filologico, quella passione. Era un film che voleva fare, gli piaceva quella New York che si vedeva nei musical esagerati, con le scenografie false, sfacciatamente false. Non so, non gli puoi voler male mai, perché comunque c'è sempre una passione, una voglia di riagganciarsi a un certo tipo di cinema, o di fare, di muoversi in direzioni nuove, come negli ultimi casi. Diciamo, posso giusto dire che sono dei film minori, per me, non minori in quanto importanza, sarebbe difficile. Però delusione no, è tutto bello. Dall'inizio, poi come dicevo, vedendo il primo film e rivedendo Mean Streets, ti rendi conto già che non è cambiato nulla, era lì l'inventiva, quello sguardo così un po' acido, ironico, drammatico insieme, c'era già, si è solo mosso tra i generi, ha fatto un po' quello che gli piaceva, e quindi niente. Anche Kundun, me l'ho rivisto recentemente, ieri, scusa, perché non me lo ricordavo per niente, mi ha sempre colpito. Poi quando l'ho visto la prima volta ero piccolino, l'ho rivisto che ero leggermente più grande, e mi colpì, che questo fa i film sui gangster e poi un giorno esce con un film sul Dalai Lama. Mi ha sempre colpito, però è come quelle parentesi di cinema grande, classico, storico, come poi di Aviator, anche Gangs of New York, insomma, anche Ugo Cabret si diverte a fare questi affreschi storici. Anche un po' così, non Melenzi, però più, non so, più legati a un certo tipo di emozioni, ecco. Mi piace, mi diverte, che mi diverte vederlo, perché un regista, insomma, anche lui, come altri di cui abbiamo parlato, ha la sua bella età, 70 anni, però si diverte a fare i suoi esperimenti, le sue cose. Anche Ugo Cabret, che è una certa critica, o comunque un certo tipo di spettatore un pochino più selettivo, lo stronca o lo mette via come caduta di stile. Non so, io non riesco a volergli male neanche lì, mi è piaciuto molto, mi piace che abbia voluto dedicare un film a Méliès, e niente, quindi mi piacciono anche quelli. Sì, infatti, non si capisce questo odio, sì, anche odio a volte, proprio non piace Ugo Cabret, sarà il 3D, sarà il bambino, che ne so, o sarà che ha usato andare a toccare Méliès con una storia forse falsa, ma chi se ne frega, eh? È il cinema, come dice Frate Antonio, la potenza del cinema. Tra l'altro è Ugo Cabret è tra i suoi film preferiti, quindi vedi, tutto si spiega. Sì, è chiuso il cerchio. Ecco. Ultima cosa, poi possiamo passare al film, che comunque è un extra dello speciale Scorsese. Il cinema di Scorsese è diseducativo? Pensavo di parlarne nel film, però possiamo anticipare. Ma sì, visto che comunque quello che diceva Lo, perché citiamolo. Diciamo che mi ero preparato, tra virgolette, un discorso, nel senso volevo parlarne proprio perché questo film ha risollevato quelle discussioni. Vabbè, ne facciamo dopo, Tanto, sì, ma pensavo sì, film. Possiamo anticipare, visto che Alò c'era stato già piazzato tra le domande della volta scorsa, però questa volta nessuno ce l'ha chiesto, magari era la volta in cui invece era più interessante parlare di Alò. Ok, vuoi fare adesso? Bene, vai. Vabbè, anticipiamo, non è un problema. Vai. Sì, tra le tante recensioni, quelle più discusse, una delle più discusse era proprio quella di Alò, sia video che scritta, perché... se la prendeva un po' con il film, se la prende, non so perché parlo al passato, con questo The Wolf of Wall Street per varie ragioni, in particolare c'è appunto questo aspetto, quello morale, che secondo Alò è trattato nel modo sbagliato, ecco, è un film che fa quello che molti accusano di fare ad altri film, di solito sul mondo del crimine, cioè tende a glorificare, a dare una visione testosteronica, se non sbaglio, con che tirava fuori questo aggettivo, del crimine, perché comunque anche questo è un film sul crimine. Non so, a me sembra una boiata, ecco, se c'era da dare addosso ad Alò era questa volta qui, perché come ho già detto, a me piace ascoltarlo, ma qua secondo me ha detto un paio di cazzatelle, e neanche troppo... Cioè, l'ha giudicato con sembrava una posizione un po' aprioristica, cioè è quel tipo di film, quindi so già che è sbagliato come presenta il problema. Secondo me invece il punto di forza del film, scusate se mi ripeto, è proprio lo sguardo, che non glorifica ma semplicemente dipinge in modo colorito una realtà, ma una realtà che è già di per sé spettacolare, spettacolarizzata e colorita, quindi a me sembra che non abbia colto il punto, mi sembra lampante che Scorsese abbia dipinto l'eccesso, che è un eccesso reale, perché al di là della demenzialità, queste cose probabilmente succedono, la cocaina, lo yacht, che tra l'altro è un fatto vero, è un eccesso che semplicemente viene documentato da Scorsese, quindi non so, la forza del film è proprio lo sguardo neutro con cui racconta queste cose. Per cui non capisco proprio questa presa di posizione, mi sembra inappropriata, semplicemente, soprattutto da uno che poi, ritiriamolo fuori, parlava bene di un film dei Vanzina, magari uno meno volgare, uno bello, però, e poi nei commenti, nelle discussioni che ha fatto, tirava fuori proprio questo, un ragazzo ha sollevato la questione, diceva, come mai noi italiani facciamo i pudici, gli indignati con i cinepanettoni, e poi andiamo in estasi per questo film. E vabbè, io credo che chi si pone una domanda del genere non abbia capito questo film, semplicemente. È una denuncia che non denuncia, è un rappresentare il perché qualcuno truffa la gente per arricchirsi. Perché? Perché è bellissimo. chi non vorrebbe essere Jordan Belfort? Questo è il punto. A parte i moralismi, anch'io ho un'etica, cioè, certe cose non le farei, però chi non si godrebbe la vita con quegli eccessi se potesse? Il punto è questo. È facile giudicare, è facile fare l'ipocrisia dell'ultimo momento, però Scorsese cosa fa? Ci racconta la realtà, è questo. Chi si casca in queste trappole perché si vuole la Lamborghini, si vuole pippare coca dal culo di una modella, si vuole fare quello che si vuole, e lo vogliono quasi tutti, che se ne dica. Ma poi, si sente? Sì. No, perché l'ho staccato un attimo. Ma poi, appunto, già lo faceva con i criminali, il punto di vista neutro, io te lo faccio vedere e poi decidi te. È stato uno dei primissimi a farlo, perché tutti, figuriamoci a Hollywood, tutti dovevano dare il giudizio finale. Tutti hanno sempre glorificato i gangster, da Piccolo Cesare in poi, però guai, alla fine dovevi dire, ecco, vedete, loro sbagliano, non fate così. Scorsese invece no, non l'ha mai detto. Ma non è un male. Cioè, se tu hai un po' di testa, ci arrivi da solo. Cioè, quando questo qui è... anche Jordan Belfort lancia i soldi addosso a quelli dell'FBI, cioè ti rendi conto da solo che è sbagliato, non deve esserci lui, Scorsese, che ti dice no, non si fa, cioè è un po' di testa dello spettatore, non del regista. Quindi è diseducativo? No, è neutro, punto. Diseducativo chi non lo capisce, cioè è un problema suo, che non è educato al cinema ma a qualsiasi altra cosa. Se comunque, non ci arrivi... Proprio perché siamo sull'argomento, viene per forza in mente lo Scarface di De Palma, che è un po' l'emblema della glorificazione del criminale. Anche quello non lo è, ci presenta uno stile di vita che era quello di molti criminali dell'epoca. E ripensandoci adesso, mi viene in mente che più che... Sì, cioè è ovviamente una continuazione della poetica di Scorsese, di Casinò, di Quei bravi ragazzi, però sembra quasi una versione moderna dello Scarface di De Palma, più di tutte queste cose. Perché c'è quel colore, c'è quella regia... La cocaina. A me, ecco, pensandoci ora, mi si è proprio impressa nella mente questa cosa. È lo Scarface di oggi, più che quei bravi ragazzi di oggi o il Casinò di oggi, perché è un criminale, una figura unica che fa quello che vuole per tutto il film. Sì, poi c'è una caduta, però anche lì rimaneva un po' tutto ambiguo, c'è quel colore, quella messa in scena lucida, chiaramente è cambiata l'estetica, quella era legata alla sua epoca, come Wolf of Wall Street lo è alla sua, però ecco, credo sia l'erede di quel film, di quel presentare, sì, spettacolarizzando la vita di un criminale, ma semplicemente perché la vita di un criminale di questo tipo è spettacolare e quindi sta all'occhio di chi guarda. Ma anche questo mi sembra, cioè appunto, lo hai detto, che si parlava di quello che ha spiegato Alò, però anche doverlo dire mi sembra strano, è lampante, sì. è un film, è uno spettacolo, e quindi presenta uno spettacolo. Non capisco perché vengono fuori adesso, nel 2013, anzi scusa, 2014, queste cose. Ormai siamo spettatori un po' maturi, specie Alò. E se non sbaglio, magari dico una fesseria, quindi... lo premetto, nella recensione stessa tirava fuori anche Quei bravi ragazzi come esempio di cattivo cinema da questo punto di vista, quindi è proprio uno sguardo sul regista che è quello e non è cambiato nel tempo, mi sembra strano, a parte che poi mi sembra che Quei bravi ragazzi abbia un finale, sì c'è un sorriso, ma è un sorriso a cui segue poi una famosa scena, no? Di Joe Pesci che... Questa immagine di Joe Pesci che spara è una vita da paraculo, ma cosa sei? Sei un vermetto che deve vivere nascosto con la paura che chissà cosa succede. Cioè, non so, mi sembra lampante che questi film abbiano un'ambiguità intrinseca. Non capisco perché un recensore di quell'età e di quel livello si faccia venire fuori queste paturnie adesso. Mi sembra che più che dal film si faccia influenzare da quelli che lo trovano diseducativo, o comunque da quelli che sono cresciuti col modello sbagliato, perché quanti hanno il poster in camera di Tony Montana come se fosse il modello ultimo? Io? Sì, è vero. Ma io ce l'avevo, ma per il film. Sì. No, vai, penso uno che cresce diventa, fammi vedere, Corona. Era lui, sì. Il nuovo Tony Montana. Però ecco, non ti devi fare influenzare da questi. Chi se ne frega, questi sono proprio stupidi. Pensa prima al film. Il film è diseducativo? No, perché non lo è, perché è neutro. Che poi gli imbecilli lo vedano e dicano: ah, ecco, quanto parla bene dei criminali, quanto vorrei essere Tony Montana o Henry Hill. E quello è un punto, cazzi loro, hanno sbagliato e hanno capito male. Quindi sì, ha sbagliato, allora dispiace. È una critica che si può fare alla realtà, cioè Berlusconi è lì e qualcuno dice però che furbacchione, vorrei anch'io essere così, come parlava il ragazzo, come diceva il ragazzo della sigla di oggi. Quindi qualsiasi cosa è interpretabile, può influenzare negativamente, l'occhio critico lo si sviluppa, specie dopo i 20 anni, insomma. Ma poi mi sembra che lui abbia un po' questa presa di posizione anche per motivi... appunto, come dicevo, a prioristici, perché lui parla sempre del cinema, soprattutto quello che guarda al mondo femminile in termini positivi, cioè c'è una figura femminile forte, anche se magari è macchiettistica o scritta come meglio capita, e lì va tutto bene. Qui c'è invece il contrario, sembra quasi che lo abbia infastidito proprio questo sguardo maschilista, ma anche qui, insomma, non poteva essere diversamente. È un uomo maschilista, stronzo, drogato, sessuomane, cioè, non so, mi sembra che non abbia filtrato le proprie emozioni, i propri punti di vista. Il motivo per cui l'altra volta dicevo che non è un critico, è un opinionista, e viene fuori questo proprio quando la sua recensione ruota intorno alla sua visione della vita e del cinema. E niente, vanno presi con le pinze queste opinioni e basta. Invece vorrei parlare di quella degli sfietati, ma è incomprensibile. Ma non l'ho letta, perché peccato. E, vabbè, per metà parla appunto di questo passaggio generazionale da quei bravi ragazzi, casinò, e adesso questo. E lì, boom, va bene, si capisce. Poi per il resto è un po'... Cioè, sai che loro usano tutti quei paroloni, e stringi stringi, cos'è che dicono? Sì, a volte cose interessanti, a volte nulla. E stavolta sembra un po' come il caso della seconda. La guarderò, sì, insomma, diciamo che è una cosa sempre da leggere dopo una visione, dopo un po' di tempo, perché sono delle cose molto... Sì, sono delle opere a sé le recensioni dei Sfietati, vanno analizzate anche loro. Il grande problema della critica è quello che vogliono essere loro, l'oggetto della critica, sì, fanno l'opera d'arte loro. Vabbè. Parliamo del film? Abbiamo già parlato. Sì, abbiamo già introdotto ampiamente, quindi sì. Ecco, vabbè, film che attendevo da tantissimo, io che sto avendo un problema col cinema, invece attesissimo, e abbiamo appena detto non emuliamoli, eccetera, e io invece sono cresciuto col mito del broker tipo Jordan Belfort. Fin da piccolo, e fa molto strano, ma io volevo diventare un agente di borsa. Ho questo ricordo ancora nella mente, quando venne eletto Bush la prima volta, eravamo nel 2000, io avrò avuto 11-12 anni e già al mattino ero lì, prima di andare a scuola mi segnavo quanto aveva fatto il Nasdaq e quanto il Dow Jones. Chiaramente non è che ne capivo molto, però ero proprio preso da questa cosa. Il motivo principale per cui mi sarebbe piaciuto diventare un agente di borsa, a parte i soldi, sì, sempre stato appassionato di soldi, era New York, il Nasdaq era New York, quindi New York. Se a New York c'era il mercato dei polli, probabilmente avrei voluto essere un pollaiolo, non lo so. Però i film, ecco, un bambino cosa va a vedere? Va a vedere al cinema qualcosa, il cinema che esalta tutti i sogni che abbiamo. Un bambino va a vedersi come sono gli agenti di borsa, fammeli vedere. Una poltrona per due, sono molto divertenti, ma sono... è una commedia, insomma. Fammi vedere Wall Street. Wall Street è noioso, e tutti i film di finanza con questi broker che sono ricchi, che sono stronzi come Gordon Gekko, che sono tutta gente che potrebbe avere il mondo su un'unghia, e sono noiosi, noiosi. Ma anche i film, ecco. Oliver Stone in Wall Street, quanto la menava con la morale, quanto era noioso quel film. Vabbè, non così tanto. Però ecco, Scorsese diseducativo, Stone era una noia, perché c'era dava giudizi fino alla fine, guai a essere Gordon Gekko. Poi, guarda caso, si ottiene sempre l'effetto contrario, tutti vollero diventare Gordon Gekko, però fa niente. Beh, però nel 2 si è in parte, è andato nella direzione opposta, perché poi nel 2 Gordon Gekko, insomma, esce e... rimane libero nonostante riprenda subito a fare porcate. Sì. Era un finale del particolare quello di Wall Street 2, non se ne parla, però lui esce e viva, sposatevi, però sotto sotto rimaneva lui che l'aveva fatta franca. Sì. Se ne potrebbe parlare di Wall Street 2, perché era quasi meglio del primo per alcune cose, vabbè, e anzi anche molto più bello. Era un chilometro da Wall Street, che nessuno ne parla mai tanto, perché era comunque un filmetto. Però non era male, e comunque era un po' divertente, lo era. Però a parte i discorsi su morale, eccetera, erano noiosi, perché questi broker che tu ti aspettavi facessero chissà che cosa, non facevano niente alla fine. E io mi ero sempre immaginato questo broker, questi agenti che viaggiavano con le macchine di lusso, avevano la casa piena di soldi, le strafighe, strappone, eccetera. e non l'avevo mai trovato. E finalmente è arrivato Scorsese col suo film e mi ha regalato finalmente quello che io ho sempre immaginato, Jordan Belfort. Quest'uomo esistito veramente, potremmo anche dire la fine che fa, perché insomma quasi lo presentano col finale questo film, no? Pronto? Sì, vabbè, è uno sì, che insomma comunque, è finito in galera poi. Ormai l'hanno visto tutti, credo, poi non è un film di colpi di scena. Sì, comunque quando lo presentano dicono sempre questa storia di Broker finito in galera, quindi finito in galera non tanto perché ha prodotto un film con Hulk Hogan, non so se lo sapevi, ma ha prodotto come il Club degli Agenti Segreti, The Secret Agent Club del 96 con Hulk Hogan, che su IMDb è un 3.5. Al film si vede che è uno con un buon gusto, insomma. Sì. Non poteva che fare un film con Hulk Hogan. È finito in galera, però per altri motivi, appunto, perché per frode borsistica, sì, insomma, e manipolazione del mercato azionario. Jordan Belfort è, però, è un self-made man, è il WASP, il classico americano che ha coronato il sogno americano, è partito dal basso, è partito dal nulla, è arrivato a Wall Street subito, perché come studente è arrivato lì, ma subito gli hanno detto sei una merda, sei una nullità, come gli dice il primo rompicoglioni che è un po' il suo capo, prima di incontrare l'altro, che è quel personaggione di Matthew McConaughey, e da lì è iniziata una scalata al potere incredibile. Alla fine quant'è durata? 5 anni, ed è passato da uno che viveva in periferia nel Queens, che andava a lavoro col bus, ad avere la Lamborghini bianca come si chiama quello di Miami Vice, Van Johnson o Don Johnson, no, è Van Johnson, a guadagnare 49 milioni l'anno, e gli dà anche fastidio perché non sono quei 52, cioè 1 milione a settimana, ad avere una moglie che è una bomba sexy, insomma ha coronato il sogno che tutti in America vorrebbero. Sì, non l'ha fatto legalmente, questo è un altro discorso. È un Robin Hood, un twisted Robin Hood, se non sbaglio, dico, nel film, che ruba ai ricchi per dare a se stesso principalmente e ai suoi amici. È un predicatore formidabile, non solo quando al telefono o con i clienti vari con le sue dolci paroline riesce a convincerti a fare qualsiasi cosa. Ed è bellissima la scena in cui mima l'amo lanciato, la canna che tira, e poi glielo mette nel culo dopo aver messo la vasellina. Lì è DiCaprio dal massimo. Ma anche con i suoi colleghi, i suoi dipendenti, è formidabile. Si mette lì col microfono, convince tutti, gli vende questo sogno di avere la macchina bella, basta fottere il prossimo. È una sorta di Gatsby dei giorni nostri, anche lui si arricchì ai tempi in modo abbastanza illegale, e insomma è un uomo senza morale, ma questo abbiamo già detto, è uno che non gliene frega niente della legalità, eccetera, e abbiamo detto anche che Scorsese non gliene frega niente, e soprattutto a Scorsese non gliene frega niente di spiegarti come lui si è arricchito, cioè la parte azionaria, finanziaria del film, quella che tutti gli altri dovevano sempre spiegare, anche Wall Street 2, se ricordi. Sì, sì, parlava dei prime, dei subprime, sì, era abbastanza specifico. Ma perché lì c'era sì, gli appassionati. Stone, che era figlio di broker e quindi voleva rappresentare, dedicare al padre, sì, era un occhio diverso. Soprattutto poi fai un film per gli appassionati, e figurati se non gli spieghi certe robe. Scorsese invece se ne strafrega, prima di tutto perché il film è basato sulla biografia di Belfort, quindi è una storia di un uomo, sì, ha fatto quelle cose, ma non è che devo stare qua a spiegarti, c'è Wikipedia, c'è il libro dove magari le spiega meglio, ma chi se ne frega. Il bello è anche DiCaprio Belfort, che ogni tanto si ferma mentre sta cercando di spiegare allo spettatore cosa sta facendo questa truffa con le penny stock, e dice, ma sì, lasciamo perdere, tanto cosa volete che ve ne freghi. Bravo, è così. Invece di appesantire un film che è una bomba di 3 ore sotto... non piace, no? Sotto, come si dice? Droga. Qualud. Qualud, sì. tagliamo queste robe e andiamo avanti, facciamo vedere quello che ci interessa di più. E da questo punto di vista Scorsese è tremendo. Oh, 70 anni, lo ricordiamo, ultimamente lo ricordiamo spesso, Woody Allen, Polanski, gente che ha superato i 70, ma che ha ancora una sveltezza e un'energia che trentenni se la sognano, o settantenni italiani che si chiamano Dario Argento. E qui è un altro mostro, sceneggiatura, montaggio... È un ritmo forsennato, non c'è mai una pausa. Il finale ovviamente deve un po' calare, perché deve chiudere, deve mettere le carte in tavola, riassumere e dare una conclusione, però tutto il resto è una cosa pazzesca. Sembra davvero, come stanno dicendo tutti, di essere drogati per il film, di essere super eccitati, perché è un carnevale per tutto il tempo, è una festa continua, una gioia, un'esplosione di luci, di colori, c'è di tutto, non riesci neanche più a capire dove ti trovi. Alla fine hai il fiatone anche te, anche se sei stato seduto e hai visto un film. Dà veramente l'effetto della droga. E, come si dice? Ha fatto proprio un lavoro sul montaggio, ho letto da una intervista. Un ritmo per dare al film un ritmo sincopatissimo, ti batte il cuore come se stai facendo cardio, quelli che fanno palestra magari lo sanno, quelli che vanno a correre, sprint velocissimi, poi si abbassa il ritmo, poi riparte, è complicatissimo, un po' se ti ricordi anche Shutter Island. Col montaggio ti dava un senso di straniamento, era forte, fortissimo, cioè per tutto il tempo capivi quello che succedeva, ma c'erano quei tagli, quell'assemblamento di immagini che ti perdevi un po', lì per altri motivi, qui per altri ovviamente. Tra l'altro Rodrigo Prieto, se non sbaglio, direttore della fotografia, ha anche usato diverse lenti tra le sequenze sobrie e quelle meno sobrie per accentuare insomma il punto di vista dello strafatto Belfort. Poi che cosa, sono delle scene meravigliose, anche se non sono niente di che. Ecco, in questo film Scorsese non ha fatto nessun, almeno io non me le ricordo, niente virtuosismi. Lui che è il mago del long take, del piano sequenza, questa volta niente di che. Non so se tu te ne sei segnata qualcuna, qualcosa di memorabile, non c'è la scena forte. Beh, ce ne sono un paio belline, no, a parte che no registicamente magari. Sì, beh, di piani sequenza magari non lunghissimi ce ne sono, negli uffici quasi non te ne accorgi perché magari sono non lunghissimi ma sono tanti, ce ne sono dei momenti molto belli, cioè, a un certo punto, verso il finale, no, beh, verso metà, c'è cioè, non so neanche come ha fatto, se è una gru o un carrello sospeso, comunque c'è cioè, la macchina da presa che va, dopo il discorso di Belfort, va verso l'interno dell'ufficio, passa sopra le teste, avanti e indietro, e ondeggia a sinistra e a destra, come se il suo discorso si espandesse nella stanza, è pieno di queste piccole cose, ma è più sulla fotografia, più sul montaggio, è una regia non discreta perché è vistosa come tutto nel film, però è ben amalgamata. Ecco, ti dirò una cosa che ti farà molto piacere. Quando ha girato quelle scene, quella del carrello in avanti e indietro nel Old Doll, insomma, nell'ufficio, sai chi c'era? Spielberg. Ha detto che praticamente l'ha diretta lui, perché Scorsese voleva fare questa cosa e ha detto: Steven, tu che dici? E falla così. Gliel'ha fatta lui, in pratica. Pensa, hai ancora voglia di insegnare ai settantenni, Spielberg. Ma lui quanti ne ha? Anche lui è vicino. Mi sa che come generazione, sì, ma anche Coppola, Friedkin, dicevamo prima, sono tutti 70-80enni. Dunque, Scorsese è del 42? Sì, del 42. Spielberg, adesso vedo perché non me lo ricordo, è del 46, è più giovane. È un bambino, cavolo. Vabbè, comunque, magari non ci sono virtuosismi, ci sono alcune scene che mi ricorderò. Per esempio, non è un granché, però quella del discorso, la riunione tra tutti i membri sui nani, quella è bellissima. ha quasi il nonsense di un film di Oizo. Lì a parlare di questi nani, come bisogna lanciarli, che poi sono hanno loro, le loro idee su come si comportano i nani, che sono gente cattiva che poi sparla se tu gli fai male. È bellissimo. Che mordono e quindi bisogna armarsi di fucile storditore. Sì, è vero. Niente, una cosa diceva, niente pallini perché poi gli fa male. Sì, lascia il segno, invece no, bisogna stordirli. Quella è bellissima. Quella è una riunione tra uomini d'affari. E poi mi è piaciuta molto anche quella sullo yacht, la discussione tra il cattivo alla James Bond, come si fa a chiamare Belfort, e l'agente dell'FBI interpretato da Kyle Chandler, che lì lui fa sempre la stessa faccia, sempre gli stessi ruoli, ma lì è quasi irriconoscibile ed è bravissimo, soprattutto quando dice può ripetere la frase nello stesso modo, è bravissimo, sono due attoroni lì che gigioneggiano. E poi ricrea gli anni 80 in una maniera imbarazzante, perché non basta mettere le camicione, c'è una Jonah Hill che è meravigliosa, quella a quadri, ma quadri grossi. Sì, che anche i pantaloni sono a sì, quadri. Una spalla sì, rossa, tipica. L'altra blu, giallo, verde, non basta mettere quelle cose, non basta mettere la Lamborghini Countach per fare il film anni 80, bisogna proprio prendere quello stile. E lui ce la fa, vabbè che ha vissuto in quegli anni e ha fatto i film in quegli anni, però sembra di vedere un film di quell'epoca, non solo per lo stile ma anche per i contenuti. La cocaina che torna a Hollywood in questo modo, Hollywood nell'ultimo periodo è sempre più bacchettona, guai a fare robe del genere, invece arriva Scorsese, bam, te la mette lì, poi mette quella scena con Braccio di Ferro, più di così, è meravigliosa, credo che nessuno supererà quella scena quest'anno, un po' come la coscia di pollo di Killer Joe, nessuno l'ha superata l'anno scorso, quest'anno nessuno supererà una roba del genere. E poi il sesso, le nudità, alla fine Scorsese ha dovuto un po' ritoccarle, le nudità, se no gli davano il vietato ai minori di 17 anni. Ah, tra l'altro, film diseducativo, eh sì, ma è vietato ai minori di 14, comunque una buona fetta viene esclusa, anche se è una commedia. E il nudo, tantissimo nudo, Scorsese, che ormai è anche produttore televisivo, si è fatto contagiare dal livello della TV, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, e lo porta al cinema, cioè il cinema, che una volta era quello che esagerava, adesso si è un po' abbassato, ma ritorna a fare qualche eccesso. Qui c'è molta passera al vento ed è un bel piacere. E vabbè, chiudo. Vorrei fare un paragone con American Astro, perché se lo distrugge proprio. Ecco come doveva farlo, magari, David O. Russell, visto che anche quella è una commedia, e anche lì sulle truffe. Un po' più di divertimento. No? Dura un'ora in meno, ma pesa due ore in più. Sì. No, quasi quasi, ma sì, velocissimamente sui difetti, se così si possono chiamare. Ho parlato di un finale che si siede un po', però non è un difetto, è semplicemente deve chiudere. Il difetto è che non dura più di 6 ore. Io avrei voluto che continuasse questo baccanale. E poi, vabbè, i virtuosismi chi se ne frega, alla fine è bello comunque. Sì, la scena della barca, che tutti si lamentano, no? Ma alla fine comunque è una cosa che è successa veramente. D'accordo, non lo nego, però non mi è piaciuta quella. Non lo so, credo che anche se è un film di eccessi, quella stona, è una cosa che, soprattutto poi l'aereo che esplode quando lui guarda fuori dall'oblò. Magari anche quello è successo, però no, ma credo che quello sia una cosa surreale, no, semplicemente narrativa, è un modo per far vedere anche visivamente cosa succede, lui lo scoprirà dopo, non è che succede lì davanti. Ah vabbè, comunque è una cosa che mi è piaciuta un po' meno, però ecco, in quella scena, ma anche prima, la CGI scadente, chi se ne frega, appunto ho detto difetti, ma tra virgolette, però la computer grafica è abbastanza bruttina. Chiudo veloce sugli attori. DiCaprio praticamente l'abbiamo detto, sì, bravo, cioè, bravo, ma al solito ruolo. è vero che si regge il film su di lui, su, sulle sue spalle per 3 ore, perché praticamente è sempre in scena, regala una scena meravigliosa, che è appunto quella di Braccio di Ferro, cazzo non voglio morire sobrio, una frase bellissima, ma anche tutto il pezzo prima in cui biascica al telefono e deve salire sulla Countach, sta gattonando perché è in paralisi psicomotoria, no, motoria neurale, non so, lo dice a un certo punto, cerebrale, paralisi cerebrale, paralisi cerebrale, esatto. Che poi sono andato a rivedere la scena in originale, per quello forse anche che ho detto quella cosa sul suo doppiatore, perché DiCaprio è molto bravo lì, ovviamente è una scena così difficile da doppiare che... sì, la naturalezza dello sforzo non ce l'hai, certo. Invece mi è piaciuto da morire Jonah Hill, non so se io l'ho definito il nuovo Joe Pesci per i film di Scorsese, no? Il Joe Pesci in generale, non glielo auguro perché Joe Pesci poi è sparito, però è il personaggio della Joe Pesci nel film, è la spalla, è anche il diversivo comico ed è bravissimo, irresistibile, in alcune parti lo odio, è veramente un rompicoglioni. Però per il resto è simpaticissimo, le scene più memorabili sono con lui. Steve Madden. Steve è bravissimo, e tra l'altro pur di fare il film si è ridotto la paga al minimo sindacale, $60,000, non è che sono pochi, e soprattutto quando Scorsese così lo voleva conoscere, perché non lo conosce bene, voleva fare un incontro con lui, gli ha detto no, facciamo un'audizione. Lui non ha mai fatto un'audizione perché è scoppiato con Superbad, e da lì insomma che audizioni gli fai? Se ti serve il ciccione simpatico lo prendi, no? E invece con Scorsese ha detto no, dai, provami, cioè mettimi alla prova, trattami come uno qualunque. Comunque lo sei, Jonah Hill. E soprattutto la scena col pene di fuori, te la ricordi? E lui usa una protesi, ma nessuno lo sapeva, quindi le reazioni sono vere. Si sono girati e c'era lui col pisello di fuori. Sì, una delle dire. Tante scene memorabili. Ma anche quella del pesce, ho letto che l'ha voluta fare con un pesce vero, per rendere sgradevole la cosa. E me lo gliel'hanno fatta fare poi. Ho letto che l'ha fatta comunque con... Sì, ma l'ha sputato fuori, lui voleva proprio mangiare. Ah, nel senso, ok, sì, cioè l'ha girata, ma poi... Sì, come si vede, ma poi... Poi mi è piaciuto tantissimo anche Rob Reiner, che è il papà di Jordan, che sembra quasi... che fa il verso al Martin Sheen, papà di Charlie in Wall Street. Quando lui arriva in scena è meraviglioso, quando si incazza al telefono, perché gli rovinano la serata... Il martedì sera mentre si guarda Knight Rider, mi sembra che fosse. Sì. E Jean Dujardin, vabbè, simpatico, la sua piccola parte. Margot Robbie, strafica. E niente, chiudo qua. Spassosissimo, esorbitante, farsesco. Scorsese ci avrà 70 anni, ma è ancora sotto Qualund. Vai. Sì, paura e delirio a Wall Street. Sì, è bello perché sì, una settimana fa praticamente parlavamo del cinema classico dell'America, del sogno americano, e fa un po' eco il film di Scorsese perché parla delle stesse cose, delle stesse realtà decenni dopo, con uno sguardo molto diverso. The Immigrant era una storia di arrivisti, di sogni, infatti poi di poltiglia. Questa è proprio lo sviluppo, sai, cos'è cambiato da allora? Nulla, solo è tutto più in grande. L'uomo che si fa da sé non è più l'immigrato che arriva e si deve arrangiare pappone, no, è qui è proprio oltre. L'immigrato è ben integrato, è un wasp appunto. Perde tutto per la crisi economica, però il giorno dopo, tra l'altro poi per merito della moglie, perché in due occasioni è la moglie a suggerirgli le idee, il fatto di rimettersi in gioco dopo la crisi, di trovare un lavoro sempre nella borsa, e anche quello di usare i penny stock con i ricchi, stranamente viene fuori così, di soppiatto, ma è la moglie ad avere le idee migliori. Questo per dire che poi sì, è l'uomo che vorrebbe essere, che vorremmo essere, ma è un imbecille, le buone idee le hanno gli altri, lui ha solo molto carisma. Quindi sì, è un film come quelli precedenti di Scorsese, è un film che riguarda un po' al passato, prima dicevo Scarface, ma in generale al cinema anni 80, lo rifà meglio di com'era il cinema anni 80 ovviamente, però è un riguardare sempre a certe forme, non recuperare certi stilemi e aggiornarli o riscriverli del tutto. Appunto, quindi sì, una bella ricostruzione, ma anche un bell'omaggio a un'epoca cinematografica, culturale. E poi, allo stesso tempo, è un film attualissimo, ovviamente, perché parla di 30 anni fa ormai, ma è una storia che non a caso viene scelta. Parla di qualcosa che è sempre all'ordine del giorno. Cos'è? 2 anni fa ormai, o forse di più, Bernie Madoff è stato schiaffato in galera per sì. 120 anni con qualche ergastolo. Tra l'altro bisognerebbe capire che cosa, non avendo seguito non so, ma mi chiedo che differenza ci sia tra i reati di Madoff e quelli di Belfort, che sta in galera neanche 4 anni. Comunque è l'epoca delle grandi società che mandano in rovina l'uomo comune, qui più i ricchi, però indirettamente probabilmente è la gente comune a pagare le conseguenze. Cosa fa? Quindi racconta questo broker geniale a suo modo, sì, dicevamo, con uno sguardo neutro, più che altro con uno sguardo che non giudica, non è documentaristico il film, ma quasi è una ricostruzione, un'evocazione storica, ci racconta quel mondo, quindi come dicevamo prima per il discorso etico, deve mostrarci come davvero, piaccia o non piaccia, morale o no, è una vita spettacolare, di eccessi, di lussi sfrenati, di orge, di sensi, di tutti i sensi, non solo sessuali. È una ricostruzione, quindi deve mostrarci perché qualcuno fa una cosa del genere, perché si arriva a truffare sia i ricchi che i poveracci, e perché in un certo senso chi non lo farebbe, chi non arriverebbe a quel punto, in quel modo, se ne avesse la possibilità. In fondo poi il film parla di questo, di un personaggio che riesce a convincere gli altri, ma perché? Perché, come dice lui stesso, vogliono tutti essere come lui, quindi chi lavora per lui non si pone un problema etico, vuole essere Jordan Belfort, chi compra le sue azioni che non valgono una mazza, perché lo fa? Perché lui gli promette uno stile di vita che è il suo, e quindi insomma è terribile, è una presa di coscienza semplice ma molto incisiva. Noi siamo così, cioè l'Occidente è questo, è il mondo del se puoi fallo, se ti capita l'occasione perché no, dei Berlusconi, di quelli che votano Berlusconi, vorrei essere anch'io così, lo voto, gli do i miei soldi, gli do $6,000, è la stessa cosa, noi la conosciamo bene in modi diversi, ma i personaggi sono gli stessi, ed è bellissimo perché ci mette davanti a mostri e criminali, e li rende non affascinanti, li rende ammirevoli, paradossalmente. Ci rendiamo conto tra una risata e l'altra che li invidiamo, magari con un po' di vergogna, magari in misura diversa, però insomma non so, vorrei vedere chi ha il coraggio di dire a tutto tondo no, non vorrei avere quella libertà, quel lusso, quella ricchezza. È terribile, è un film di nuovo sul crimine organizzato, come abbiamo detto, è una continuazione di quei bravi ragazzi, di Casinò, della ricchezza ricercata a tutti i costi, delle vie facili, veloci per arrivare al successo. Quindi sì, sempre criminali, questa volta non si parla di mafia, ma siamo comunque da quelle parti, forse anche peggio, di tanti piccoli mafiosetti come poi era Hill, non era niente, si uccideva per carità, però sono quelli come Belfort fanno suicidare la gente di rimando, quindi non siamo poi distanti dal punto di vista etico, è una barriera molto sottile, quindi Scorsese torna a parlare, continua a parlare delle stesse cose, poi mi sembra che ci siano tanti echi con tutto il suo cinema. È un film che può essere considerato un seguito spirituale anche di The Aviator, perché no? È anche speculare, un film di 3 ore su un grande personaggio, sempre DiCaprio, con momenti spettacolari come la nave che affonda per Belfort o l'aereo che cade per Howard, insomma c'è molto in comune, c'è Gangs of New York, c'è Quei bravi ragazzi, l'abbiamo già detto, solo che è un film di 3 ore, è un film freschissimo per un settantenne, ma per chiunque, un film giovanile nella messa in scena, nelle idee, nella scrittura. Sì, sempre impressionante vedere questi registi attempati che continuano a bombardarci con dei, sì, quasi capolavori, capolavori, ognuno giudica. Niente, quindi, come dicevamo all'inizio, c'è sempre la paura quando si racconta la vita di un criminale di glorificare, di spettacolarizzare la vita, il percorso. E invece, ecco, quel limite Scorsese lo oltrepassa intenzionalmente, cioè, ci mette tutto, l'esagerazione dell'esagerazione, ci racconta quel mondo così com'è, non pone nessun filtro ipocrita, forse questo disturba certi osservatori, il fatto che mette un po' davanti all'inevitabile, al tracollo della società. Siamo dove siamo perché esistono queste persone e perché noi, bene o male, gli permettiamo di fare queste cose. Infatti il finale penso sia il punto più forte, una delle parti che mi sono piaciute di più. Tutto divertentissimo, tutto esplosivo, poi arriva quella specie di brusca frenata, casualmente che coincide con un incidente d'auto, diciamo, anche se ridicolo anche questo, nel drammatico c'è sempre il ridicolo, però ecco, si ferma e tu sul momento dici, ah ecco, non resiste neanche Scorsese o comunque chiunque l'abbia scritto, e ci mette il tracollo, insomma, la giustizia finale. E invece no, magari ecco, evito di dire troppo per chi ancora non l'ha visto, saranno pochissimi, però non c'è questa redenzione, non c'è questa apologia, cioè no, c'è una quasi un'apologia, al contrario, cioè una punizione che non conta nulla, come ci ricorda lui e come vediamo tutti i giorni. Questa gente va in galera, ma ci va per un quinto del tempo che si era detto, e insomma in galere che poi sono dei campi da tennis, delle piscine, dove tutti sono vestiti pulitini, bianchi, c'è la sala hobby, insomma tutto il lusso che trovavano anche fuori. Però poi qui c'è qualcos'altro dopo, è una scena che forse quelli come Alò non hanno visto perché sono usciti prima, o hanno visto e hanno voluto vedere in un certo modo, questo viaggio in metro che secondo Alò dovrebbe rappresentare una specie di accanimento sul personaggio dell'agente dell'FBI, che si guarda intorno dicendo, ah che stronzo, però io sto qui a fare il mio lavoro, e mi sudano le palle in metropolitana ogni mattina, e quello sì, è andato in galera, ma è miliardario. Ma poi non sorride anche. Mi sembra di sì, non è, non lo so, ma sì, può darsi. Si guarda intorno, non ricordo esattamente la scena. Chi se ne frega, e comunque è così. È davvero così. Quella persona si fa il mazzo. Non c'è, sarebbe stato sbagliato mostrare lui che, ah sì, che bello, sono in treno in mezzo ai poveracci, ma almeno sono onesto. No, è uno sguardo anche lì neutro. Ci mostra lui che continua a fare la sua vita. È la realtà, la dura realtà. Belfort farà i suoi anni di carcere, ma esce ed è pronto a ricominciare. Lui si fa il mazzo come tutti i giorni. Poi comunque c'è subito dopo, per questo dico, forse si sono alzati troppo presto, perché dopo quella scena c'è un bellissimo montaggio analogico con il pullman che porta Belfort in galera, che sul momento sembra quasi dire, ah, vedi, c'è il contrappasso, Belfort paga, e no, esce, e cosa succede? C'è quella conclusione bellissima, vendimi la penna. Molti ci hanno perso le ore a dire, ma cosa vuol dire? Belfort è deluso, perché quelli sono dei deficienti. Sì, non sono svegli come il suo amico, non mi ricordo come si chiama. Danny Azoff. No, no, quello che capisce come Ah, vendere la penna, quello, Brad. Brad, esatto. Sì, qualcuno ha voluto cercare la spiegazione, no, il punto è un altro. Lui è un predicatore, quella è la sua congregazione, è uscito, è lì e sta trovando un nuovo gregge, sta trovando i nuovi Donny, i nuovi Brad, e alla fine ricomincia tutto da capo. Siamo lì, siamo noi che magari paghiamo $600, €600 per andare al corso di questo che ci dice come rimetterci in piedi, come riguadagnare, come moltiplicare i nostri guadagni. È la dura realtà, di nuovo, è un film amarissimo. Che non mette filtri, che non giudica, ma non alleggerisce, non ha pietà. per quello che mostra, per quelli a cui lo mostra. È divertentissimo e tu costantemente pensi, ripensi a quello che stai vedendo, stai ridendo, ma sei lì, sei uno spettatore di qualcosa che poi è terribilmente reale, è così demenziale, così mostruosamente eccessivo che si tende a ridere, però riflettendoci qualche minuto in più ci si rende conto che queste cose succedono. Anche quella dei nani può far ridere nella sua demenzialità, però queste persone in ufficio probabilmente facevano cose molto simili. Se non organizzavano quello, organizzavano quanta cocaina comprare, da chi comprarla, quali ballerine prendere, perché, insomma, è tutto lì, è una commedia del reale terribile, davvero un film bulimico, esagerato, orgiastico, irresistibile, perché se ne vorrebbe ancora, se ne vorrebbe in continuazione, si finisce per entrare nel quadro anche per via di questi carrelli di cui parlavo prima, si entra in questo mondo, ci si rende conto di quanto sia grottescamente affascinante la vita di queste persone, di quanto si vorrebbe essere lì con loro, anche a essere umiliati come la segretaria che si fa tosare a zero per la gratifica. Siamo lì, ci mette davanti a noi stessi, o ad alcuni di noi stessi. Qualcuno magari dirà: no, io non sarei mai così, va bene, comunque, io forse sì, quindi... Davanti a $10,000, poi vediamo. Esatto, vabbè, non voglio, mi risparmio il tutti, va bene, lo rinnego, però ecco, dico, io credo che forse ci penserei almeno a certe cose. Io no. È questo che lo rende, no, nel senso, lo prenderei in considerazione, forse accetterei, quello è il punto. Insomma, sì, un film enorme, freschissimo, divertentissimo, è una messa in scena, sì, forse non ci saranno i virtuosismi scorsesiani, qualcosa c'è, come ho detto, secondo me ce ne sono parecchi e sono molto funzionali, sono sempre atti ad inserirci in quell'estetica ottantina, in quel mondo che è ancora così attuale, però è fantastico, è misuratissimo nella sua totale anarchia, perché è un film anarchico, eppure ordinato, è attento, è preciso, ha dei tempi comici fantastici che non hanno tanti registi di commedie, e c'è la Scorsese che, diciamo, non è nel suo genere primario, anche se lo ha già affrontato più volte, eppure lì è martellante, ci sono le scene che arrivano al momento giusto, e anche quando sei appunto alla terza ora, dopo due ore di esagerazioni su esagerazioni, ti sorprende ancora, perché è un crescendo inarrestabile. Sarebbe facile stancarsi, un film del genere qualcuno lo avrebbe chiuso in un guscio più piccolo, in un'ora e mezza, in due ore, perché c'è il rischio di perdere il pubblico, di non tenere il ritmo, e invece no, una sceneggiatura che batte il tempo alla perfezione, delle interpretazioni che stanno lì a reggerlo questo ritmo, tutte, nessuno escluso, da DiCaprio, che ho già detto, bravissimo in questi ruoli, che anche se si ripetono, comunque continua a gestirli molto bene, per merito soprattutto di un regista, uno sceneggiatore che lo muove con una certa perizia, e poi tutti quelli di contorno, Brad, che è un bellissimo cafone, però è bravo l'attore, non gli scommetteresti due lire, eppure se la sbriga bene, Jonah Hill, fondamentale, anche il personaggio, perché dopo McConaughey è lui l'artefice di Jordan Belfort, perché come dicevo all'inizio, sì, lui è Belfort, è il self-made man, ma non è così self-made, le idee gliele dà la moglie, gli eccessi, le idee pazze in un certo senso gliele dà Donnie, e Donnie poi regge il gioco, se ci rendiamo conto che Jordan è la facciata, è quello che deve vendere al pubblico, cioè la possibilità di diventare come lui, ma tutta la sostanza la mettono gli altri, e di conseguenza il personaggio di Jonah Hill è fantastico per quello che hai detto tu, per le scene folli in cui è coinvolto, ma poi appunto una fisicità fantastica, quei denti fatti risaltare, lui che con questi tic poi crea un personaggio nevrotico, pazzo, ma anche simpaticissimo, è il cicciottello adorabile che serviva a questo film, è fantastico, anche lui tiene il tempo alla perfezione. Le scene dello sballo poi sono le migliori per tutti e due gli attori. Poi McConaughey, fantastico anche lui, in poche scene all'inizio del film arriva, anche lui contribuisce a creare il mito Belfort, e poi passano due ore e mezza e continua a ricordartelo, che è pazzesco, perché è un film che ti sommerge di immagini, eppure tu comunque ti ricordi ancora di questo mentore fantastico che entra in scena in pochi minuti, dà due istruzioni che poi servono a tutto, insomma, la cocaina, la masturbazione e il vendere soprattutto per se stessi. È fantastico, quindi anche c'è un ricambio generazionale all'inizio e alla fine. Ci sarà sempre un Jordan Belfort, un Mark Hanna o i discepoli di Belfort. Niente, tutti bravissimi, tutti fantastici. Poi insomma, è difficile perché è un film quasi corale, nonostante tutto, nonostante DiCaprio sia sempre al centro, c'è un contorno di piccoli attori, Tappetino, non mi ricordo il nome vero, l'asiatico, quello che poi era in My Name is Earl, insomma tutti i suoi amici che poi ci si dimentica alla fine che lo sono, ma sono gente di strada. Alla fine lui, cioè all'inizio lui non li prende dagli uffici di Wall Street, non li prende dai centri che gestiscono il penny stock, no, li prende dal suo quartiere. E questo ci fa anche pensare che la gente che è lì, sì, qualcuno è figlio di industriali, nipote di industriali, ma molti sono, insomma, gentaglia di strada che si è arricchita con questi metodi. E forse anche questo poi ci fa tornare alla mente il discorso del se potessimo lo faremmo anche noi, perché è possibile, può capitare a uno studentello, può capitare a uno sfortunato come Pavone. Donia. Sì. No, Pavone a Novara nella borsa, davvero. Non so, sapevo che lavoravi per un ufficio di un notaio, vabbè. Bene, è tutto qui alla fine, non è un mondo che premia il merito. Sì, in qualche modo lo fa dopo, perché la furbizia viene premiata, però è un mondo in cui viene premiata la disonestà, in cui appunto chiunque può entrare. Niente, un filmazzo gigantesco nella mole e nell'importanza che ha poi sia nel cinema di oggi che nella filmografia di Scorsese. E sì, direi un film, appunto, ripeto, freschissimo, nuovo, giovane nello spirito, non sembra neanche appunto di un regista settantenne. Beh, sappiamo di cosa è capace Scorsese, però se ce lo presentassero senza dirci nulla, senza sapere nulla, diremmo, beh, questo qui è un ragazzo incazzatissimo con la società di oggi, che è pieno di energia, pieno di forza, capace di dirigere, di tenere banco per 3 ore, e quindi per quante ore di riprese, quanti giorni, quante inquadrature pazzesche. E poi, boh, è davvero uno che ha dei tempi comici magnifici, a 70 anni, senza venire dalla commedia, pazzesco, sono delle scene stupende. Tutta quella dal country club a casa, dallo sballo nella macchina alla scena del braccio di ferro, compreso poi il soffocamento, è magnifica. È lunga, serratissima, divertentissima. Si rimane senza fiato perché si ride e si rimane in tensione per questi sviluppi assurdi. È bellissimo, davvero. Era un po' così all'inizio. Ci ho dovuto ripensare perché mi è piaciuto, me lo sono goduto, è scivolato via, però ero lì per dire, sì, c'è qualcosa che non so, non me lo ha fatto amare quanto ho amato, che so, C'era una volta a New York della settimana scorsa, forse è ancora così, però è comunque un film portentoso, uno di quei film che vorrei fare io, ecco, vorrei essere in grado di fare, solidissimo cinema, classico anche questo in un certo senso. Però dinamico, nuovo, modernissimo allo stesso tempo. Beh, l'unico difetto vero credo sia appunto troppo poco Matthew McConaughey, e questo la dice lunga sul resto, c'è proprio quasi nulla da rimproverargli. E mi fa un po' non incazzare, chi se ne frega, però Specie. no, mi lascia confuso il discorso che ho sentito fare più volte. Troppo lungo, un'ora e mezza, doveva durare un'ora e mezza, doveva durare mezz'ora in meno. Ma come si fa a misurare il cinema e quindi l'arte al pezzo? Cioè, non vai dal macellaio e chiedi, voglio 2 ore. È così, è un'opera personale. Poi, vabbè, capisco che c'è chi non riesca a stargli dietro. Mi sembra surreale, perché è un film, come ho detto, martellante, davvero. Non capisco come ci si possa, non dico annoiare, ma distaccare da questo vortice di lusso e sfrenatezze. Ma è davvero pretendere di dire quanto dovrebbe essere lungo? Ma come si fa? Cioè, non è solo un fatto di arroganza, è anche di distacco dalla realtà. No, ma, cioè, un'opera d'arte, come si fa a misurarla a ore? Cioè, non... Ma ogni tanto però la critica, non in questo caso, ma poteva tagliare mezz'ora, ci sta, eh. Anche se ma non è carne quella che guardiamo, vabbè, è ma no, arte, però. Devi però anche pensare dove la tagli, come la tagli, cioè è un corpo unico un film. Sì, ecco, quando dietro c'è da uno come Scorsese, cioè se c'è dietro uno che ti fa un blockbuster e dici ah ok, appesantito, va bene, ma lo Scorsese non è uno che mette mezz'ora in più per farti stare mezz'ora di più seduto, cioè questo voglio dire. Due o tre curiosità e poi due argomenti, così chiudiamo. Matthew McConaughey, il personaggio di Matthew McConaughey, se non sbaglio è Mark Hanna, come hai detto te. Sì. E lui rimase poi con Belfort, anche quando lui andò alla Strothman Oakmont, adesso non mi ricordo bene. Quindi chi si lamenta? Ce ne poteva essere di più. In effetti c'era la possibilità di vederlo un po' di più, però è ovvio che lo presenti in quel modo, è un personaggione e poi lo devi mettere a fare il... protagonista o comunque relegarlo nel background, no, meglio tagliarlo lì, amen, purtroppo. Poi se ti ricordi il pugno che sferra Brad a Donnie, che parte dai denti, un dente, è successo veramente, l'attore che fa Brad ha preso in pieno Jonah Hill davvero, il dente è volato via, e Scorsese non ha detto oh come stai, no, è andato subito a filmare la vera reazione del volto colpito, poi si è scusato eccetera, però è tutta vera anche quello. E poi un'altra scenone, l'orgia gay, è stranissima, anche poi dopo quando il maggiordomo gay viene interrogato tra virgolette, ecco, la scena gay era veramente pesante, cioè si vedeva tutto, gli effetti, insomma gli addetti a quelli che devono dare il vietato eccetera hanno chiesto che Scorsese facesse un po' di modifiche, quindi gli specialisti degli effetti speciali hanno dovuto riprendere delle sedie e per poi metterle digitalmente nel film, quindi noi dovremmo vedere i peni, ma c'è davanti una sedia messa dopo, si dovrebbe vedere tutto, insomma. Due, ecco, prima parlavo di American Hustle, che va bene tutto, però come gestiva male i personaggi macchietta a un certo punto, cioè quelli simpatici, e anche qui gli dà una lezione Scorsese. Donnie è quasi una macchietta, però regge fino alla fine, è divertente, non è il personaggio di Bradley Cooper che è divertente perché deve esserlo, questo è divertente, quello era fastidioso dopo due o tre scene. E poi Belfort è un personaggio scorrettissimo, è possibile dargli un Oscar? Cioè l'America arriverebbe a dare un Oscar a DiCaprio, chiaramente, no, a Jordan Belfort. Per me, per questo, è un messaggio che puoi permetterti di premiare. Poi magari sbaglio, glielo danno perché non ne possono più queste prese in giro per l'Oscar. Però se proprio non ci fosse, se fosse la prima nomination di DiCaprio, direbbero bravo, ma Belfort non si premia, guai, perché siamo in una situazione in cui non bisogna neanche dire che Belfort è comunque simpatico, guai, bravo DiCaprio, ma il resto no. Te che dici? Ma è appunto la differenza tra gli Oscar e un festival, lì considerano questo, l'aspetto promozionale, l'aspetto più superficiale, quindi potrebbero dire sì, premiare lui significherebbe premiare quel tipo di personaggio. Non so se sono dietro questi ragionamenti, la giuria li funziona in modi un po' strani. In un altro festival avrebbero detto, beh, basta, è bravo o non è bravo. Sì, chissà, se non gliel'hanno dato prima, è difficile che glielo diano adesso per queste ragioni. Quelli che dicono, sì, questa volta è la volta buona, non so, è giovane, può darsi che lo tratteranno come Scorsese, glielo daranno quando magari avrà 50 anni, glielo daranno per un ruolo insignificante, è così che funziona. Poi che possano esserci dietro, sì, ragionamenti di questo tipo può anche essere. insomma, sono gli Oscar, vanno in TV, sono lo spettacolo per tutti e soprattutto lo pagano quelli di Wall Street in parte, no? È un evento ad alto budget che in parte è rappresentato da quel mondo. Quindi sì, può darsi che considerino quelle cose lì. Non saprei, è un po' politico, un po' commerciale l'Oscar, quindi sì, perché no, non ci avevo pensato, però è altamente probabile. No, soprattutto visto che è una cerimonia americana, e quello è uno che ha contribuito a mandare sul lastrico l'America. E quindi, boh, di sicuro lo prenderanno in considerazione. O magari sono semplicemente io che ci sto pensando e loro dicono, ma chi se ne frega. Però l'Oscar è molto sensibile a queste cose. Non dovrebbe, ma fa niente. Che poi, sì, stavo pensando, in effetti ha preso un personaggio scomodo per loro. Però, come dicevano, per la gente può sembrare già meno antipatico, a parte perché, quello che dicevamo prima, dell'ammirazione, ma perché, appunto, come viene detto nel film, lui ruba ai ricchi, che poi non è vero perché i soldi li estorce anche ad altri, però in generale viene presentato come uno che si rifà sulla gente più ricca di lui. Quindi per il pubblico, per certi giudici, per una parte del pubblico almeno potrebbe essere già meno antipatico come icona. Non so, sarà bello, sarà una sorpresa in tutti i sensi, perché anche come film, metterlo lì in mezzo agli Oscar, può darsi anche che Scorsese non l'abbia scelto poi del tutto a caso. È un film che racconta anche quel mondo, no? Quello del business. E lui da autore, da regista, cosa offre? Un affresco terribile del mondo che poi non lo premia o che comunque regge le carte di questi giochi. Non so, chissà che non ci sia dietro una scelta anche personale, sia da parte di Scorsese che di Caprio, voler fare un film un po' più arrabbiato anche per questo. Vabbè, vedremo. Come ha detto Ghezzi in intervista, gli Oscar sono tanto alternativi e lungimiranti, no, comunque sembrano tanto diversi da quello che si pensa quando fanno le nomination. Poi alla fine vince sempre quello che è tipico prodotto da Oscar. Quindi che ti aspetti, sì. Tra l'altro quindi Ghezzi ha anche detto che Transformers sarà il miglior film del 2011, l'ho detto sì, ieri. Insieme a Faust, vabbè. Bello accostamento. Direi di chiudere qua con un appuntamento che interesserà anche a te, ma che immagino conoscerai già. C'è gente che, a quanto pare, ho letto un commento, sta prendendo l'aereo dagli Stati Uniti per andare a Bologna, perché dal 2 al 12 febbraio c'è fino alla fine del mondo il cinema di Bellatar. Sì. Cioè faranno tutti i suoi film, una rassegna. I prezzi non li so, ve li andate a vedere. C'è anche lui. I prezzi non li so, ve li andate a vedere sul sito della Cineteca. A quanto pare, se la gente sta arrivando dagli Stati Uniti, sarà difficile trovare posto. Comunque ce n'è uno, due al giorno, addirittura sì, durante la settimana tre al giorno. Se potete andate, è più vicino che andare in America. Comunque ve lo segnalo. Beh sì, visto che poi Bellatar si è ritirato, quindi penso che anche come incontri prima o poi smetterà. Una bella occasione, anche per chi non lo conosce, ma insomma lì è diverso. E puntadona su Scorsese finita. Vuoi fare un ultimo, la canzone di McConaughey? Non mi ricordo già più il ritmo. Ma comunque sai perché all'inizio della sua carriera non lo chiamavano, non era famoso, perché non sanno scrivere il suo nome. È veramente difficile, eh? Io ogni volta devo andare a vedere, fastidio. Per scriverlo sì, anch'io, perché mi dimentico sempre dove va l'H e dove va la Y. La U, se c'è o no. Cioè, per scrivere il contratto, no, vabbè, no, prendiamo... Sì, prendiamo Matt Damon, è facile da scrivere. Sì, è vero, eh? Questo spiega molte cose. Sì, io penso che sia così. Anche gli italoamericani sono facili da scrivere, quindi li prendevano tutti. Sì, poche consonanti, qualche vocale. Vabbè, dai, falla sta canzone, muoviti. Ma si sente il battito sul petto. No. Sì. Uah! anche quella scritta e musicata da Robbie Robertson con la voce, anzi il mugugno di Matthew McConaughey. Ma è bravissimo. Rocky Roberts è un grande della nostra... Mamma mia. Vabbè. Non so quando ci risentiremo, ma ci risentiremo. Beh sì, prima ricapiterà. Abbiate fede. Ciao! Ciao! Uno più una uomo non fa tre. Io le fighe le voglio bionde, anche more, quelle belle, tutte fighe, venite da me. Io c'ho il cazzo e il cazzo d'oro, io vi scopo come nel film porno. Scopo quella figa, poi le compro l'iPhone. Scopo quella figa, poi le compro MP3. Scopo quella figa. Scopo quella figa, poi le compro PlayStation 3. Swag Berlusconi, io sono Swag Berlusconi. Lo so che senti, Silvio, lo so che senti, Silvio la.